Pronto? Sì, contrada imperiale della giraffa? Sì. Senta, ma non vi vergognate, avete ammazzato l'ennesimo cavallo. Ma perché non va a pigliarselo nel culo lei? No, nel culo se la pigliano i poveri cavalli. Pronto? Contrada della Tartuca? Sì. Voi siete colpevoli di questo continuo, terribile olocausto dei cavalli che vanno a morire per il vostro divertimento. Ma se lo va a pigliare il culo. La zanzara. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. Non ridere tu. Non ridere perché io so che tu in tasca hai ancora diverse dosi di droga. Dosi di droga. René. E allora, che c'è? Come allora? Che droga è? Cos'è? Hashish, marijuana, ecstasy, eroina? Cos'è? Ma che ti frega di cos'è? Ma perché che mi frega? Ma quando mai uno nella vita usa la parola droga? Scusa, tu usi la parola droga? Dammi la droga, sono fatto di droga, dai René. Ma cosa dici, Stanis? Ma quale vita? Qui stiamo facendo gli occhi del cuore. La rete è stata molto chiara. Questa scena deve essere uno spot antidroga. E noi lo dobbiamo chiamare col suo nome, cioè droga. È Pedro Benitez! Signori. Lo scalatore delle Ande! Ma sei veramente tu? Ma che ci fai qui? Ragazzi, non drogatevi! Ho perso la corsa della vita a causa di quella robaccia. Grazie, Pedro. Grazie. Che lezione di vita. Che forza. Stop! Buona! Una domanda sola, una. Al presidente, è possibile? Fammela fare da Barbano. Barbano, come cazzo si chiama? Problemi suoi. Devi faremo un culo così. Questo è un linguaggio istituzionale. Segnatevelo. Vi faremo un mazzo così. Io ho un pelo che neanche un cinghiale ha un pelo del genere. Non mi fate paura, non mi intimidete. Avevamo un mucchio di puttane in giro. E avevamo sempre l'uccello duro e... Così proprio. Pronto? Pronto? Pronto? Ciao, ciao Giuseppe, volevo parlare con quel coglione di Parenzo. Parenzo. Quel testa di cazzo di Parenzo mi ha mandato a fanculo su WhatsApp. Patrizia, mi WhatsApp chiamo. Mi pare difficile. No, ma si chiama Patrizia, ecco. Testa di cazzo, però non ho capito, no, il suo testa nome. Testa di cazzo sei tu. Zecca. Zecca. Zecca. Sei una zecca. Ma e cosa ricordati. Lei si chiama Patrizia Zecca, ma quanti nomi c'ha questa? Ma Cruciani si blocca, che identità? Ma Patrizia va a cagare. Solo con l'Emilia. Ma come si chiama? Io non ho vinto niente, rossa. Io voto a Roma. Come si chiama e lei? Non ho capito. Finalmente a votare democraticamente, li manderemo tutti a cagare. Scusi signora, volevo capire, domani ci guardiamo Mario Giordano, ce lo spariamo domani, o Mario Giordanone, ce lo spariamo domani? Ma Mario Giordano è un giornalista, non è come te. Può ripeterlo per favore? Tu sei uno straccivendolo. E invece Giordano? Chi Giordano è un grande giornalista. Grazie signora, non ho altro da aggiungere. Sta prendendo nel culo da quando è cominciata la politica. Hanno confermato una regione di merda che era da 70 anni rossa e stanno festeggiando quello che è Bebbiano, Bebbiano. E allora testa di cazzo ti dico Riace, Riace, che era il simbolo dell'accoglienza, era Riace. Testa di cazzo, cazzo. Bebbiano, Bebbiano. Ve l'hanno messa nel culo in 14 province. Se potete chiamare i carabinieri, ci sarà qualcuno all'ascolto? Frocia Lenzo. Sì. sei costernato. Sono allibito perché sono solo le 18:37, capito? Arrivare, amico come mio! Dicono in Emilia Romagna, arrivare alle 20:50, le dure, come dicono lì, le allora dure. Iniziamo subito dal primo personaggio di questa serata. Ho già prenotato per domani sera un ristorante a Modena, sai? Che palle, amico mio. Allora, ho già prenotato, vogliamo per fare un appello sera? Alle sardine di Modena, sì. Le sardine di Modena, se ci sono, venissero anche a trovarci, le sardine trionfanti di Modena. Non hanno bisogno domani, di venire. Sardine trionfanti. Dove siamo di domani? Allora domani dalle 18:35. Via Danimarca 100. Ci trovate tutti lì. Il circo si trasferisce lì, c'è il tendone, trovate le gabbie con gli animali, dentro queste gabbie ci sarà Donato da Varese, tutti questi po' di nazisti chiusi nelle gabbie. A un certo punto alle 18:35 c'è un domatore, Cruciani, con i capelli tutti sporchi, e poi c'è l'altro, il sottoscritto col fischietto, ovviamente un alto frustino, viene aperta questa gabbia, questa prima gabbia, e usciranno i primi animali, i primi protagonisti. Così, i tuoi ospiti domani, ospiti. Io prendo le distanze proprio enormi da allora, questi ospiti. Allora, primo personaggio di questa comodi. Sera è il governatore della Lombardia, signor Fontana. Fontana in genere persona è una persona moderata, in persona genere, sì, da integerrima. Persona, sì. Allora, adesso dovresti commentare queste frasi. Sentiamo. Si è vista in TV gente, sì? La domanda era questa. Come vede le elezioni in Emilia Romagna, come ha visto, domanda classica di prammatica, sì, diciamo, tranquilla, insomma, si sì. È vista in TV gente di più di 100 anni portata ai seggi, disabili accompagnati con i pulmini, adesso. Una mobilitazione degna dei tempi andati per salvare quel che resta di un'idea che ormai è svanita per l'ultima ancora di salvezza. Ovviamente è stato attaccato, hai attaccato i disabili, accuse da tutte le parti. Signor Fontana, cosa ha voluto dire? Ha voluto dire che c'è stata una grande mobilitazione, cioè legittima, che quella percentuale di distacco che c'è tra la Borgonzoni e Bonaccini, quella allora, percentuale lì mio, è dovuta al fatto cosa? Che i comunisti hanno portato al seggio dei disabili? Mi sembra così, un'analisi. Così ha detto il signor Fontana, mi però sembra, il signor Fontana voleva dire con questo un'analisi riassunto. No, signor Fontana. Assolutamente. Sì, ma con questo riassunto cosa voleva dire il signor Fontana? Che voi della sinistra organizzata, della sinistra classica, tradizionale, comunista, ma quella è, che da signora? 70 anni governa l'Emilia Romagna, cosa avete fatto? Avete ma fatto avete giustamente la Stalingrado, cioè avete creato una situazione tale legittimamente. Ma se legittimamente non ha mai risposto avete, a nessuna provocazione, no, ha fatto la sua campagna Bonaccini. In silenzio, casa per sto casa, strada per strada, una cosa. Le sardine sono andate in piazza senza insultare nessuno, semplicemente dicendo sembra che avete vinto da due giorni, sembra che avete vinto la terza guerra mondiale. Ma adesso questo è quello scritto la terza guerra mondiale, a proposito Fermo. Io però do un consiglio al direttore. Dimmi. Sta lì quelle ore che rimane lì al giornale. Prima di pensare quale articolo scrivere, che titolo fare. Pensasse ai cessi che gli fregano, pensasse alle merendine che gli fottono nel distributore automatico. Io credo che il comunismo non sia una fede politica, ma una malattia mentale molto grave dalla quale si può migliorare, ma non guarire, ecco, diciamo. Le senti analisi, questa cosa, signor Salvini. Le analisi. Il comunismo è una. Oggettivamente, oggi chi si proclama comunista è un malato mentale. Diciamo la verità. Oggi, come oggi, chi dice sono comunista dice: vabbè, amico mio, vai al manicomio. Perché chi mai, si dice comunista oggi? Beh, oggi chi si dice sono comunista dovrebbe essere internato. È la stessa cosa che uno che dice sono fascista. Vabbè, beh, è completamente diverso, non importa. In Italia, non te lo devo rispiegare ancora. Ma lascia perdere. Quando se uno oggi dice sono comunista e ce ne sono di comunisti in Italia, dovrebbe essere internato. Cioè l'amico Rizzo dovrebbe essere internato, ma lui lo dice per gioco, perché non ci crede nemmeno lui. Quelli ma che ci credono si per dice da... che lo dice per ma gioco. Figura di amico Rizzo, dai su. Dottore Feltri, voto a Salvini. Ma a Salvini do un 8 pieno perché è stato un eroe. In Emilia non ha mai nessuno osato sfidare così apertamente quello dice? Che oggi si chiama PD, ma che ieri si chiamava PC. Beh, qualcuno dice cioè, è stata scusa, in Emilia sono state le elezioni negli ultimi 70 anni. Però scusami, qualcuno ha mai preso il 42%. Ma no, 43%, ma scusami, a Bologna vinse sinistra. Guazzalocca anni Meluzzi, fa. È tornato Meluzzi, fermi no, tutti. Ma perché? Ma è una è tornato Malox. Io ho sentito delle trombonate di sinistra postcomuniste su queste elezioni in Emilia Romagna. Lui che è stato peraltro Stalingrado, l'ultima battaglia. Ma qui, cari ragazzi, non era il generale Zhukov contro von Paulus, perché Bonaccini non era von Paulus e Salvini non era Zhukov. E tu non sei neanche un pope? Ha ragione però Belucci. E tu non sei Belucci. Un prete ortodosso. Dai, ti abbiamo già sbugiardato. Meluzzi, fermi tutti. Come sapete oggi Facebook ha tolto il video di Salvini, quello del citofono, per istigazione al razzismo. Non rispetta è un'azienda privata, Facebook. Per carità. È un'azienda privata. Il difensore del signore tunisino, del ragazzo tunisino, uno dei tunisini, però non si capisce mai chi è quello che ha risposto, quello che non ha risposto, quello che era in casa e poi invece lavora, quello adesso vuoi fare minore... un'inchiesta pure no, su voglio capire, no? Me, voglio capire. Senti, Katie La Torre si chiama, Katie La Torre. Nel frattempo mi è arrivato questo scoop. Diamo e cioè scoop. Che pare, verificherò se è vero, chiederò a Facebook che il post sul citofono è stato rimosso per incitamento all'odio. Ce l'ha rimosso Facebook? Pare così, l'ho letto sul giornale. Adesso verificherò non è uno scoop, se è vero. Ho già chiesto in diretta a Facebook se è vero che è stato rimosso. Verificherò. Ottima domanda, Serena Bortone. Una cosa incredibile. Ottima domanda, Serena Bortone. Una cosa incredibile. Brava, vedi la Bortone, vado lo scopettino a Bortone. Oh, ma brava, che cosa? Brava. Salvini che cosa vuole fare? Vuole denunziare? Anzi, se la prende con la 7. Senti. Con la 7. Sì, senti. Ci sono alcuni programmi di La 7, alcuni conduttori di La 7. Probabilmente Caureo, giustamente impegnato a seguire le vicende del Torino, che però sono diventati il megafono o il citofono, per stare sull'attualità, di Conte, del PD e della maggioranza. Il megafono del PD. E a quale proposito dice questa scempiaggine? Vuole denunziare innanzitutto Conte per sequestro di persona, per la vicenda delle navi che hanno appena riportato. Quale sequestro? Perché lui dice: si accusano me di sequestro di persona per la vicenda della nave Gregoretti, e allora dello Stato. Allora denunzio io. Ma la Gregoretti Conte era una nave dello Stato. Per i quattro giorni dell'Ocean l'altra Beach. È un ONG, hanno fatto la trattativa. Okay. State dici. Ma come comunque? Ma vuole denunciare puoi dire lui. Comunque. Vuole denunciare ma lui. Non puoi dire io. Comunque. Ma vuole denunciare lui. Ma vuole denunciare lui. Non in serio. Ma vuole denunciare lui, ma non fai io. In serio, la Gregoretti era una nave dello Stato. Che distinguo sono? Della Guardia Costiera. Ma come aspetta, che distinguo aspetta, sono? Aspetta. Poi però, siccome il porto, questa ONG l'ha chiesto sabato alle ore 13 e siamo arrivati a martedì ora di pranzo, sabato, domenica, lunedì, giusto, martedì. Quattro giorni prima di concedere un porto sicuro a questa ONG, li denuncio. Denuncio per sequestro di persona il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'Interno. È incredibile come gioca intanto sulle persone. Porro, lui gioca sull'immigrazione. Intanto gioca. Porro vuole un gemellaggio con la Zanzara. Senti, posso senti, dire dopo una cosa senti, su Porro? Senti, perché senti, veramente senti, io senti, gli voglio. Sì, senti, però, senti. Però preparatevi una musica senti, triste per Porro. Senti, preparatevi senti. Una musica triste. Siete in anima in pace, la zuppa di Porro esiste per questo, esiste per raccontarvi quello che, sapete, l'unico, io vi posso dire, si dovrebbe fare un gemellaggio tra la zuppa di Porro e il, come si chiama, la zanzara di Cruciani, ma ve lo dico francamente. Caro Porro. Aspetta. Caro aspetta, Porro. Aspetta. Caro perché Porro. Io che sono un ascoltatore della zanzara di Cruciani, che non riesco qua a recensire, quelli là dicono, con Parenzo che dice le sue solite minchiate di sinistra, ma dicono esattamente, leggono la realtà come la voglio leggere io. Cioè, puoi essere d'accordo, puoi non essere d'accordo, ma dicono le cose normali, semplici, facili. No. Ma come normali? Sto per indossare la toga. Oggi mi vado a laureare e si ascolta la zanzara. Zanzara. There's a place off Ocean Avenue where I used to sit and talk with you. Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. ciao, mi sono dimenticata di chiederti una cosa. Domani oppure quando vuoi puoi dire che vorrei regalare un frustino con il mio nome a Vittorio Feltri, perché gli rubano le merendine e gli rubano le tavolette del cesso, così se eventualmente dovesse trovare i colpevoli li potrà punire con il mio frustino. È una promessa che manterrò. Allora, la grande battaglia tra Luca Telese e Maria Giovanna Maglia di sera. Senti, mi siedo in poltrona, aspetta che mi siedo. Mi siedo in poltrona, mi siedo. Sallusti, Maria Giovanna Maglie, Daniele Capezzone, ho chilometri di loro articolo in cui parlano di garantismo. Ma perché il giorno della matricola in cui sempre parlano di con valori, di rispetto? Adesso stiamo facendo passare che suonare a casa di una famiglia che non sono tutte, risultati Telese, spacciatori, Telese, non erano pregiudicati. Telese, la ragazza, misura, scusa Maria Giovanna, se la leader del Tirania va benissimo, il senso per un della secondo. Misura. Non erano spacciatori, deve... voglio sentirvelo noi dire, sia, perché non siccome lo so non che erano. No, allora stai zitta. Non lo so che cos'erano allora. Allora stai zitta. Telese, avanti tutta, fratello mio. Avanti tutta, Telese. È tornato Telese, è ritornato. È tornato Telese. Aspetta, aspetta, aspetta, aspetta. Non lo so che cos'è. Non so però che suonare un citofono in un paese in cui si è abolita la prescrizione. Parla di questo, testa di cavolo, parla di questo. Fermi. Però pare non abbia detto testa di cazzo, testa di cavolo. Vabbè, insomma, per noi gli ha detto giusto, Telese gli ha ricordato una cosa giusta. Che un candidato suona il campanello di una casa di presunti spacciatori non è elegante e non è bellissimo. Però io vorrei una cosa, che un giorno o l'altro qualcuno titolato suoni. Sei un garantista, Alessandro, diciamo che non lo erano, perché c'è stata una lettera di questa ragazza su Facebook che è stata commovente. Guarda Telese, per favore Telese. Per Salvini c'è ancora speranza. Don De Capitani dice che è politicamente spacciato. Senti. Da tempo sto dicendo che Matteo Salvini è ormai spacciato, politicamente parlando. Dovrei sempre aggiungere politicamente parlando, perché altrimenti sia i leghisti come i giudici fraintendono. Forse c'è ancora speranza. Cacciari contro Conte. Beh, grandissimo, devo dire. Cacciari, che a un certo punto ha messo alle strette il presidente del Consiglio ieri sera, è l'uomo più incredibile del mondo, il trasformista per eccellenza. Io non c'è un uomo nel mondo occidentale come Conte. Ha preso provvedimenti gli stessi di Salvini, perché era lui presidente del Consiglio, li ha firmati e adesso li rinnega tutti. No, se mai li ha condivisi, non è che li ha firmati. Beh, li ha firmati, i provvedimenti li ha firmati, non è che li firma solo Salvini. O sono firmati, li ha condivisi. No, li ha condivisi tutti, senza dire una parola. Senza dire una parola, una faccia come il culo, ragazzi. Ieri, giustamente, Cacciari, che non è certamente salviniano, tutt'altro, anzi ha detto Salvini lasciava 200 persone al freddo e tu sei rimasto a guardare, e quello là incassa, perché è un grande incassatore. Certo, ha dei meriti quest'uomo, sicuramente ha delle qualità il signor Conte, il presidente del Consiglio, perché non può non avere qualità uno così, un grande incassatore che si fa scivolare tutto addosso. Ma è un trasformista, ragazzi, dovete temere per queste cose qua, dovete temere per queste persone qua che si trasformano, cambiano. Tutti quelli che cambiano bisogna in qualche modo temerli, tutti. Da Salvini è d'accordo, appunto, vedi la questione degli immigrati, e lì c'è una grande battaglia culturale e politica da fare anche a livello europeo contro le destre, e ti schieri da una certa parte contro una certa altra, e non stai ad osservare Salvini che tiene al largo 100, 200, 300 persone al freddo, alla fame, eccetera, eccetera. Allora, caro professor Cacciari, capisco, diciamo, il suo atteggiamento intellettuale, ma qui c'è un governo che il Green New Deal ha declinato nella manovra economica. Se ci sono delle misure che non condivide, specifiche che abbiamo adottato o per lei non sono sufficienti, apriamo un dibattito. Le dico che su queste misure lei faceva il governo anche con Salvini. Ma non è vero, perché... Ma come no? Perché in quel governo non siamo riusciti. Aspetti Cacciari, lasciamo finire Conte. Eccoci qua ragazzi, andiamo a Donato da Bologna, vai. Ciao Giuseppe, ciao David. Io volevo intervenire, vi ascolto da tanto e sono veramente arrabbiato. Ho sentito una intro scandalosa di tutta quella gente che non vive a Bologna e in Emilia Romagna e che parla a caso, perché sentire che sono stati fatti gli autobus degli ultracentenari per andare a votare è solo una delle tante falsità che ho sentito. La nonna della mia ragazza, 98 anni, la prima volta è andata a votare quando si doveva scegliere fra monarchia e repubblica. Ma non ho capito, ho capito Donato, questo qua è una cosa che ha detto il governatore della Lombardia, non è che l'ho detta io. Certo, è stata fatta per senso civico, cioè i centenari. Fa cazzo che vuole, ma se uno vuole mobilitare civico, perché capivano, a dispetto di quello che dici te Giuseppe, capivano che qui il pericolo c'era. Ma quale pericolo? No, scusa, è stato garantito garantire il diritto di voto. Io sul territorio l'ho sentito. Ma tu hai fatto l'ascoltatore lì hanno Salvini garantito. Aveva una cena elettorale in montagna qui da noi, 150 persone invitate. La cena è saltata. Ha scritto un post dove diceva che avevano preferito di non farla perché il ristoratore era stato minacciato. Qualcuno ha pensato di non fermarsi alle boiate salviniane, ha chiamato il ristoratore, ha detto no, nessuna minaccia, c'è una perdita di gas, purtroppo la cena è dovuta saltare. Sì, circolano anche degli audio, sì lo so, però scusami Donato, scusa, che cazzo c'entra questo? Perché balla mostruosa, è una balla mostruosa. Ma non ho capito, Donato. Ma hanno garantito il voto agli anziani. Allora, uno che mente così in campagna elettorale, cosa ma mentono tutti in campagna elettorale. Ragazzi, ma la politica è la politica, Donato, io non ho capito. Ma non è mentira. Vuoi votare per la sinistra? Vota per la sinistra, qual è il problema? Non ho capito perché devi vedere come il pericolo antidemocratico qualcuno se vince dall'altra parte. Ma che cazzo dici? Secondo me c'è più pericolo in teoria se la stessa parte politica per 70 anni governa un posto, in teoria. Io non lo vedo nemmeno il pericolo. Ma qual è il pericolo se un altro vinceva? Non ho capito qual è il pericolo, spiegami qual è questo cazzo di pericolo antidemocratico, spiegami qual è. Allora, io non vedevo nessun pericolo tu l'hai detto. Io parlavo del fatto che la nonna della mia ragazza, ma chi se ne frega della nonna della tua ragazza? La nonna della ragazza è andata a votare e ha fatto bene. Nessuno è stato portato tutto su un livello nazionale, ma nessuno si è soffermato sul fatto che Bonaccini. Vabbè, Nuradin da Bologna, l'abbiamo detto. Nuradin da Bologna, vai Nuradin, dimmi. Ma poi si è garantito il continuare diritto di quello voto. Che diceva il signore. Io ho fatto una campagna elettorale, cioè l'ultimo giorno, ho chiamato tutti gli africani, tutti i senegalesi, tutti quelli africani che conosco, senegalesi. Andate a votare. Bella grande mobilitazione degli immigrati. Fare la differenza, perché non se ne può più di uno che non ha il senso dello Stato, perché Salvini non ha senso. Dunque, dello Stato. Se vinceva la Borgonzoni che succedeva, scusami? Come? Che succedeva? Non succedeva niente, è lì il problema. Io mi sono scandalizzato, lo diceva prima Parenzo. Va bene che abbiamo avuto un sindaco che faceva il macellaio, con tutto rispetto ai macellai. Perché che male c'è? Scusa, una barista viene a gestire una regione che è uno stato. Anche apprezzato, non è che Bonaccini è un genio, no? Però santo Dio, questo qua che va a suonare meglio della barista, alla gente, meglio della barista, per me quello là potrebbe essere un spacciatore, va denunciato. Io ho lasciato l'Africa perché in Africa funziona così, perché se uno è politico ti mette in galera. E poi mi dice adesso anche, questo poi qua mi... cosa vuole? Vuole avere il potere per arrivare e dire tu non mi piace, sei nero, tu hai i capelli lunghi, e dunque tu c'è... hai l'orecchino, e dunque allora dinne. Ti mette in galera. E dunque c'è il pericolo, e dunque c'è un pericolo. Come? E dunque c'è un pericolo. No, non c'è un pericolo. Ma come hai detto che mette in galera i negri? Io ritengo che la democrazia italiana è collaudata, è immune. Comunque, non è di... ma la gente chiamato... non è andata a votare per Bonaccini, solo per Bonaccini, perché la gente non se ne può più di nascondersi dietro l'immigrazione, dietro fermi falsi tutti. Problemi. Fermi tutti. Il segnale orario vi è offerto da... Samu Expo, metalmeccanica, plastica e subfornitura, 6-7-8 febbraio, Fiera di Pordenone.

La telefonata sarà registrata per garantire la qualità, il decoro e la correttezza dell'organizzazione e dei contenuti dei programmi di Radio 24. Cruciani e tutti i fascioleghisti, solo una cosa. Allora, caro David, ieri parlavamo di quel ragazzino napoletano che... Sì, però scusami, in pochi secondi, facciamo il punto. Facciamo soltanto un attimo il punto. Non su quello che abbiamo sentito. No, non su quello che abbiamo sentito, per cui chiedo scusa ai radioascoltatori. Dai, non chiedere scuse, è uno dei momenti più straordinari della radio. Dimmi, dai, chiedo scusa per Meluzzi, ovviamente. Chiedo scusa per quello che avete sentito di Meluzzi, per aver sentito la voce di Meluzzi, chiediamo scusa. Ma il punto è molto breve. Salvini annuncia che denuncerà Conte e la Borghese per la questione. Bene. A sua volta, però, a sua volta Salvini viene denunciato dal giovane del citofono. Sì, quindi la cosa meravigliosa è che abbiamo nella Repubblica delle denunce. Tu sei il primo. Questo dovrebbe insegnarci. Quello per altre ragioni. Questa cosa dovrebbe quello mi ha insultato nel giorno della memoria. Quindi figuriamoci. Ma non è quello il tema, non voglio parlare di me, figuriamoci. Però parliamo di politica. Questo dovrebbe insegnare ai nostri governanti e a chi sta all'opposizione che se si cambiasse tono, registro, vivremo tutti in un paese migliore. Ma vai a cagare. E anche la radio. Via. Pensavo volessi dire una cosa seria, hai detto una minchiata. Sì. Salvini allora, annuncia che denuncia Conte la Borghese. Viene denunciato da quello del citofono. La voce del ragazzino di napoletano di ieri. C'è o non c'è, ragazzi? La voce del ragazzino, vai, forza. Non c'è, avanti, andiamo. Piero da Roma, vai, forza. Piero da Roma, Piero. Dai, Piero, dimmi. Eccoci. Dai, eccoci, dimmi, qua. Dimmi, Piero. Ciao, caro. Senti, allora io volevo aprire un attimo un dibattito su questi vecchietti poracci a San Basilio che stanno a fare le vedette. Ma chi so questi vecchietti a San Basilio? Spiegami. Quando uno deve andare a prendere le cose a San Basilio, quando vai là, vedi questi vecchietti, questi cuori cristiani che non percepiscono la pensione, stanno lì che fanno le vedette. Ma chi sono questi? Spiegami. Non lo so, è una cosa nuova, non lo so. O te la stai inventando, una cosa nuova? Di cosa si sta parlando? No, questa è una cosa vecchia come il cucco. Poi tu che sei di Roma dovresti sapere. Ma non lo so, non hai 20 anni che non abito a Roma io. Che cazzo ne so io, Piero? Dimmi, che cos'è? Vabbè, comunque, no, niente. Che uno quando va là a San Basile, al Curbone, va lì e vede questi poveracci che stanno lì, che fanno i visti, che fanno le vedette. Perché comunque penso ci sia un racket criminale, non lo so. E allora? Comunque, no, niente, volevo dire... Ma ce lo devi raccontare tu, io non so nulla di queste vedette a San Basilio, non so niente. Allora, praticamente, quando uno sta in serata, o va a San Basilio o va a Prima Porta. Se vai a San Basilio, vai a questo benedetto Curbone, che è un posto, vai lì e diciamo che prendi quello che devi prendere, però prima... C'è tutta una fase in cui comunque vedi questi vecchi che fanno fisti, fanno cose, sembra di sta... Non so. Vabbè, allora? Beh, interessante. Allora, ma questi qua saranno d'accordo con gli spacciatori, cioè sono le vedette degli spacciatori. Certo, però secondo me in un posto come Roma non dovrebbe succedere. Ma che non succede in un posto come Roma? Ma che dici? È pieno a San Basilio, figuriamoci, sarà pieno. Ma ovunque, in un sacco di quartieri dove si spaccia, ci saranno quelli che sono lì appostati per avvertire gli spacciatori. Questo una volta, non so se ancora succede così. Se arriva la polizia o se c'è una retata, eccetera. Vabbè, hai chiamato per questo? No, però questi non percepiscono manco una pensione, cioè poracci. Matteo da Padova, mi hai rotto il cazzo già. Matteo da Padova, però ha denunciato una cosa vera. Ha denunciato Matteo da Padova, questo è un cretino. Matteo da Padova, dimmi. Buonasera. Dimmi. Buonasera, Davide, buonasera Giuseppe. Dai, basta con sto buonasera che ci ha rotto i coglioni, dai Matteo, dimmi. Ma domani siamo educati. Ma non c'è niente da essere educati. È la trasmissione più maleducata d'Italia, e resti così, ma buonasera. Ma io non sono maleducato per niente, maleducato perché così almeno si capisce quello che dico, dai. Matteo, dimmi. Allora io volevo raccontarvi cosa mi è successo oggi. Sono stato a prendere un uniforme nazista. Che vuol dire che sei stato a prendere un uniforme nazista? Non ho capito. Ti dico, Giuseppe, io sono stato vestito da parroco 2-3 anni, perché i vestiti di carnevale li compro, non li indosso quelli non ho capito. Perché hai comprato un vestito da nazista? Spiegami. Per quest'anno, siccome ci sono tutte queste polemiche sul nazionalsocialismo, eccetera, eccetera, ma non solo quest'anno. Corrente, e quindi ho comprato un vestito da nazionalsocialista. Ma dove l'hai comprato? Ma dove l'hai comprato? Che ti dica, ho fatto 300 km per andare a comprare, e pensati che sono stato a pranzo in un posto a Pistoia dove ho trovato un mio amico padovano che vive a Monte Carlo. Vabbè, no, Matteo, adesso a parte i cazzi dove tuoi, se lo metterà no, però volevo chiedervi, secondo voi io devo andare a cena uno di questi giorni all'Arista a Venezia? È un reato, secondo me, indossarlo? Non lo so, Matteo. Cioè, francamente non lo so. Per carnevale, no, però, per carnevale. Se no, tu lo porti in giro normalmente. Se tu lo porti in giro normalmente, no, penso di sì. Che per carnevale si vesta pure così. Se poi per caso dovesse scivolare nella laguna, nessuno si mette a piangere. Ma insomma, va benissimo. Signor Davide, io non scivolo mai perché a Venezia ho anche casa, quindi non scivolo mai. Vabbè, Matteo, non fare si metta sto vestito a carnevale. Qual è il motivo per cui hai comprato questo vestito da nazista? Spiegami. No, io non voglio provocare nessuno. Mio cugino dice che mi metteranno le mani addosso. Non so. Secondo voi le prenderò oppure no? Matteo, se lei va al carnevale di Venezia. Aspetta, io non ho capito. Cioè, se lei gira per Padova, così magari uno sgarasone se lo prende da qualcuno. Può succedere. Spero di no io. Matteo, pensa di pigliarci per il culo con questo racconto da imbecille. No, è la verità. Ma ho capito, Matteo, ma perché lo vuoi indossare? Motivo. Imbecille, perché lo vuoi indossare? No, a carnevale ha detto. Perché lo vuoi indossare? Quando lo vuoi indossare? A Capodanno. Ho due o tre serate. Carnascialesche in cui vorrei indossarlo. Sì, ma cosa vuoi da noi? Allora, cosa vuoi da noi? Festa privata lo puoi indossare. No, ma aspetta, cosa vuoi da noi, Matteo? Non ho capito. Cosa vuoi da noi? Da voi niente, io. E allora che cazzo hai chiamato a fare? No. Andrea d'Alessandria, vai a fare in culo. Vai. Andrea d'Alessandria, dai. David, ascolta una cosa, David. Cioè, io sono da tutt'altra parte, cioè non sono comunista, anzi dall'opposto. Beh, neanche io sono comunista, però mi dispiace ecco, dalle valutazioni. Però, e infatti sai cosa mi dà fastidio? Quelli che nominano, chiamano te e tutta quell'altra cricca di sionisti globalisti come Santuzzo, Carola Racchetti. No, non ho capito, scusa, che sarebbe Santuzzo, io l'ho attaccato, ma che sarebbe Santuzzo, sionista? Le sardine, Carola sionista. Sionista sono sarebbe. Sono schiavi dei Rothschild, ma per forza. Ah, perché... schiavi dei Rothschild, la vecchia cosa che sono schiavi dei Rothschild. Esatto. Schiavi dei Rothschild. Ho capito, sì. Andrea sì. Alessandro dice che sono schiavi dei Rothschild. Sì, schiavi dei Rothschild. Certo. Loro. Sento insultati, no? Comunisti di qua, di là. Certo. Ma è un insulto ai comunisti. Ah, dici che sono, in realtà non sono comunisti perché tu hai rispetto dei comunisti, sono schiavi dei Rothschild. Non si può. Cioè, secondo te Rothschild si fida, gli eredi di Rothschild, eccetera, si fidano di Santuzzo, secondo me. Ideologicamente Santuzzo vorrebbe esserlo. Vabbè. Sicuramente. E tu cosa vorresti essere? Un cretino? Come se l'è fatta lei questa idea? Cioè, come è arrivato a queste conclusioni? Io ci sono arrivato. Ci sei arrivato. No, ma si capisce che lei è uno sveglio, ma come ci è arrivato a questa conclusione? Ma io ti considero un intelligente. Ma anch'io lei sa. Ma insomma, come è arrivato a questa conclusione? Cioè, su quali elementi fonda la sua analisi, diciamo? Su quali? Perché è tutto un sistema che sta mettendo in crisi il mondo occidentale, quello di questo estremo antirazzismo, globalismo. Non difendere i confini, certo. Tutto questo essere radical chic oggi, il buonismo, certo. Stanno mettendo tutte parole, in discussione, radical chic, società. Buonismo, Rothschild, tutte parole. Parole che oggi vanno di moda, però vanno di moda, le parole che vanno di moda, bravo, vanno di moda. Un significato ce l'hanno, andrebbero anche vanno di moda le parole che vanno di moda. Andrebbero contestualizzate diversamente, ma non ai parole che va, no. Si è tradito da solo. Parole fermola. Che vanno di moda. Fermola. Bravo. Fermola. Adesso la borsa. Replica Sistemi è il partner software di centinaia di aziende in tutti i settori, come la Argo Tractors, leader nel mondo dei trattori, con i marchi Landini, McCormick e Valpadana. Sentiamo l'IT manager Roberto Bolognesi. La nostra produzione è distribuita su 6 stabilimenti produttivi, tutti gestiti da Replica Sistemi, con un'unica soluzione informatica centralizzata. Un rapporto che dura da 21 anni e sicuramente continuerà nel tempo con ottimi risultati. Replica Sistemi, replica successi, anche nel tuo settore. Zucchetti Group. Che fai in piedi? Sono le 3 di notte. Ti preparavo la colazione. In bagno. Basta, scuse. Prostamol con Serenoar Epens che contribuisce alla normale funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Scegli Prostamol, il più venduto in farmacia. E non hai più scuse. Zero emissioni. All'inizio era una promessa. Poi è stato un impegno. Oggi è una scelta. Gamma Volvo ibrida plug-in. Ibrida, sempre. Elettrica, quando vuoi. Per viaggiare in modalità pure, a zero emissioni. Scopri la tecnologia ibrida di Volvo in tutti gli showroom. Dall'invio telematico degli scontrini alle novità per l'IVA del 2020. Dal regime forfettario ai crediti d'imposta per le imprese che investono. Vuoi conoscere tutte le novità fiscali 2020? Segui la diretta di Telefisco, la 29esima edizione del convegno dell'Esperto Risponde. Gli esperti del Sole 24 Ore faranno il punto sulle novità tributarie dell'anno. Per saperne di più, ilsole24ore.com/telefisco. Audi official partner di Telefisco 2020. La Zanzara. Pronto? Sì, pronto, mi sente adesso, signora? Sì, mi dica? Io mi chiamo Giuffrida, signora. Stiamo parlando con le persone dove possiamo trovare conforto, vero conforto. Secondo lei dove possiamo trovare? Nella figa! A Napoli! Luciani, ma secondo te Parenzo gode di più nel ricevere una fellazio o nello sfanculare Borgonovo a coffee break dicendogli dovresti ritirare le copie del tuo libro per dignità? Dai Parenzo, dalla maggioranza silenziosa parenziale si festeggia! Però se tu costruisci per anni, con l'aiuto anche di alcuni organi di stampa, una campagna politica, addirittura facendo quasi pensare che il PD è un partito di pedofili, perché diciamola chiaramente, la vicenda vergognosa di Bibbiano... Hanno incentrato la campagna elettorale. Aspetta. Nessuno ha detto che a Bibbiano ci sono dei pedofili del Partito Democratico. Ma come? Bibbiano è stato un caso, nazionale. Ha costruito un caso politico, avete aiutato la Lega nella costruzione di un caso politico clamoroso. Guarda, visto che Parenzo ha la simpatica abitudine di parlare dei miei libri senza leggerli, l'ha fatto anche con altro, il non titolo. Capisco. Sì, il titolo, io non ho mai detto, se tu avessi letto questo libro, io non ho mai detto che le sardine avessero perso, anzi avrebbero perso, esattamente è successo quello che io pensavo che succedesse. L'Emilia Romagna è un posto, perché ridi? Rido perché ridi? Uno che ridi. Fa un, perché le sardine e gli altri pesci lessi della sinistra sono un bluff. Il giorno in cui l'Emilia Romagna vince, io fossi te ritirerei le copie. Cosa c'entra, dignità, cosa c'entra con le cosa c'entra? Dignità, no, tu dovresti ritirarti dalla vita per dignità. Cosa per c'entra dignità, le sardine? Vai. Cosa c'entra il fatto che siano il bluff sta nel fatto che questi non sono il movimento di piazza autonomo che erano cinque. No, sono c'è un movimento Soros. Che è pilotato e infatti Soros. Votano ma vabbè, ridi. No, però scusate, ridi, ti qualifichi da solo. Un attimo, ti qualifichi, cioè questa. Le sardine sono come Parenzo, delle persone razziste e arroganti che disprezzano l'avversario e non sanno che altro dire se non esibire la superiorità morale, non si capisce per quale motivo, in una regione dove storicamente ha sempre stravinto la sinistra, loro semplicemente sono una costola della sinistra. Questa è l'unica trasmissione dove i conduttori fanno risentire i loro interventi nelle altre trasmissioni TV. Riascoltando alla moviola, questo era cosa. Un confronto tra Parenzo e Borgonovo. Coffee break sulla posso sette. Dirti però il fatto che Borgonovo... tu sei ogni tanto tu sei insopportabile con quest'aria di spocchia, di superiorità. Rido, cioè basta, tratti ridevo. Borgonovo come un coglione. Cioè, no, lo tratti, quello non lo mi tratti, permetterei mai. Sì, lo tratti come un minus abens, lo tratti come non mi come no, mai come una specie di un giovanotto, sì, ma un no, giovanotto. Come un minorato, come uno no, ma quello mai, marginale, ma come quello no, ma marginale sicuramente. Lo tratti come un minorato. non mi permetterei mai. Ma minorato nel senso come uno che non appartiene alla tua cerchia. Ma la mia cerchia, non c'è nessuna cerchia, ma non andrei mai a mangiare a cena con lui perché non mi interessa. Non è una persona gradevole. No, lo consideri innanzitutto un razzista. Lo consideri innanzitutto un razzista. Sì, sì, lo consideri un razzista. Questo è corretto. Infatti, il fatto che lui dia a me del razzista perché ho sorriso di un libro la cui tesi è amico caro curiosa nel giorno in cui trionfavano peraltro le sardine e il centro-sinistra, poi può piacere o non piacere, quindi non è quello il tema, lo stesso che ha parlato di Bibbiano nel giorno in cui a Bibbiano il Partito Democratico vinceva le elezioni, mi sembra un giornalista le cui analisi sono piuttosto curiose. Seconda e ultima cosa, però ripensando, il fatto che lui dà a me del razzista, ma sarebbe un po' come se eri Prime che si mettesse a parlare di democrazia. Cioè voglio dire, mi fa ridere che dia lui a me del razzista. Cioè lui dà a me del razzista. Cioè, dice scusi, mandiamo all'ONU Prime che ha a occuparsi di diritti umani. È una battuta ovviamente, è un paradosso. Lui non è ovviamente Prime, che è un sincero democratico. Ci mancherebbe altro, è evidente. Però, ma lui però, che dà a me... No, non c'è però. Lui che dà a me del razzista è un po' come, allora, se è un po' come mi fate ascoltare se l'avete trovato il ragazzino di Napoli, che voglio dire una cosa, un ragazzino di Napoli, cioè vai se la prendi pure con ragazzino di Napoli. No, ma chi se la prende, figuriamo. Cosa incredibile. Ho fatto un gesto che per il Napoli è una cosa eccezionale. Cioè che fa? Mi sono coperto scuretto di chi la squadra è merda. Allora va benissimo tutto eccetera, è un ragazzino, quello che volete, però la cosa incredibile è che oggi c'è un legale, il solito Pisani, Sergio Pisani, che è il legale di questa famiglia, perché dice che c'è stato un odio social nei confronti della famiglia di questo ragazzino. Cioè questo qua, questo ragazzino, il padre, la madre, non so chi, hanno preso un legale per l'odio social. Ma ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? È la follia più assoluta. È un ragazzino, dai, non merita di essere linciato. Ma in non lo so, mondo, ma chi se ne frega dell'odio social? Il ragazzino va su Facebook e cosa guarda? La gente che lo... Oh, ma dai, su. Ma che... Poi il primo che ha detto questa squadra è merda, eccetera, e poi c'è l'odio social. Ma te credo, è normale, no? Cioè, in quel mondo lì è normale. Secondo me non è normale né squadra è merda né l'odio social. Cioè, sono due. L'odio social. Sì. Poi voglio dire un'altra cosa. Io non ho parlato in questi giorni, non abbiamo parlato perché non c'è niente da dire quando una persona muore della morte di Kobe Bryant, no? Però c'è una cosa abbastanza curiosa. Però è interessante questo affetto che anche l'Italia sta dimostrando. Sì, me l'hanno forse parlato perché, tutti. Sì, ma forse perché aveva studiato. Ma anche Presidente Mattarella gli ha scritto un messaggio. Perché era stato in Italia, ma sì. Perché aveva studiato fino alle elementari. Sono stati qui per un periodo. E lui anche aveva studiato i primi anni di scuola in Italia. Della figura di merda di alcuni grandi campioni tipo Cristiano Ronaldo e Figo, che hanno lo stesso manager, evidentemente lo stesso social media manager, così si dice, che hanno scritto, cioè manco la forza di tirare fuori la mano e scrivere qualcosa di originale loro, hanno scritto lo stesso messaggio sui social, lo stesso, cioè muore una persona, un grande campione, o non scrivi un cazzo, cosa che secondo me la cosa è da fare, o non scrivi un cazzo o non dici un cazzo, che insomma se conosci qualcuno chiami qualcuno eccetera, oppure non dici un cazzo, perché questa moda di esprimere pubblicamente il cordoglio per la morte di qualcuno la trovo ridicola. Ma ci sta, uno scrive una cosa, ma se decidi di scrivere una cosa, cazzo, ma scrivila tu, no? Cioè, ma scrivila tu di tuo pugno, cioè tu Cristiano Ronaldo, o falla scrivere a qualcuno, dettagliela, che cazzo ne so, dettagliela mentre sei al cesso, dettagliela a 40 Vabbè, persone però questo che vale anche per tutti i nostri politici, che no, non tutti loro ma non hai capito direttamente... ancora, queste due persone che sono dei campioni e dunque non è che possono farsi fottere in questo modo, hanno scritto forse più di uno lo stesso messaggio. È molto triste ascoltare la straziante notizia della morte di Kobe e di sua figlia Gianna. Kobe è una vera leggenda e ispirazione per molti, invia le mie condoglianze alla sua famiglia, ai suoi amici e alle famiglie di tutti coloro che hanno perso la vita nell'incidente, riposa in pace eccetera. Lo stesso messaggio con le stesse parole. Ma ragazzi, ma che cazzo di figura di merda fate? Ma dico, ma avete milioni di euro che vi escono dal buco del culo, ma pagate qualcuno, oppure pagate qualcuno per dire una cosa vostra, originale, non uguale a un altro. In questo caso soprattutto, se fate la pubblicità potete mettere le stesse parole di un vostro collega, ma se fate dei messaggi di condoglianze, cioè, tirate fuori la mano e col ditino scrivi quattro cazzate. Non hai voglia di tirare fuori la mano? Per telefono detti una minchiata, o te la fai dettare o la fai scrivere esclusiva tua. E dai, su. Francesco, Reggio Emilia, vai. Oh, buonasera ragazzi. Dimmi. Innanzitutto ci vorrebbe un piccolo miglioramento alla trasmissione, una figura permanente femminile. Sì, vabbè, non rompere i coglioni con queste stronzate, vai avanti, stasera è la serata degli scarsacazzi, vai Francesco. No, è normale. Dimmi, no, quelli va bene, meglio i malati, cioè i pazzi, piuttosto che gli scarsacazzi. Quelli chiamano, dimmi, non ti preoccupare che chiamano quelli, dimmi, malati io chiamano. Ho visto anch'io la presenza di persone che andavano a votare. Sì, ma sei col viva voce, amico mio, con l'auricolare tu, sei col viva voce o con l'auricolare? Eccomi qua. Con persone che venivano con le sedie a rotelle che venivano. Ma qual è il problema se un disabile va a votare? Mi spiegate un attimo. Se un disabile è stato portato a votare in Emilia Romagna. Ma no, devi dire una cosa molto semplice. Meno male, una ragione all'avanguardia in cui viene esercitato. Non lo sappiamo quello che è successo. Di voto. Lui sta dicendo che ha visto un sacco di follia. Cruciani, stai dicendo una follia. Stai assecondando la follia. Ma sto dicendo che è un bene che vanno a votare. Ma non solo, ma è giusto che il pubblico si occupi di portarlo a votare, perché è un suo diritto esercitare Francesco, il voto. Francesco, non ho capito qual è il problema. Parenzo, hai ragione, però io voglio vedere se queste persone le vengono anche a portare nei giorni di festa o nelle situazioni, nelle domeniche, perché spesso e vengono tu stai dicendo l'hanno portate negli altri giorni, li abbandonano mentre li hanno reclutati apposta, li hanno mobilitati apposta per andare a votare. Fammi sentire. Guardate che sono perfettamente organizzati al fine di raggiungere il loro scopo. Ma chi? I servizi sociali portano le persone a votare! No, lui dice comunisti, evidentemente. Ma quali comunisti? Ma questo c'è i comunisti nella testa! Lei si rende conto? Corno! Lei, ma secondo me, lei va. Mi dica una cosa, per favore, così sgomberiamo il campo. Lei legge la verità? No, per capire, solo per capire. Ma che c'entra? Voglio capire, lei legge la verità, libero? Guarda, quarto. Cosa fa? Guarda, mi dica. Fuori dal coro, allora, lo vede ogni tanto. Una trasmissione meravigliosa, lo vede fuori dal coro. Guardi. Ora, sostenere che l'Emilia Romagna non fa il proprio dovere perché i comunisti portano al voto i disabili, quando invece i servizi sociali hanno l'obbligo di portare le persone che non possono a votare. Ma non ho capito qual è il problema se uno va a votare ed è disabile, scusa, non ho capito. Tu dici perché sono organizzati, se si organizzano per far andare a votare i disabili sarà un bene. È un paese civile. Non lo so, penso di sì. È una regione civile. Dice, io però voglio venire incontro. È un paese civile, però allora il discorso è questo. Cioè che tu dici che dunque Fontana ha ragione, il presidente della Lombardia ha ragione, sono manipolabili. Cioè un disabile è manipolabile. Ma come fai a dire che è manipolabile? Un disabile è manipolabile. Ma digli qualcosa. Digli qualcosa anche tu. Che io sei a Milano dicendo, con gli occhiali da sole alle 7 della sera, alle 8 della sera, ma digli qualcosa anche tu a questo. Uno chiama e dice che il disabile è manipolabile, ma digli qualcosa anche tu. Se sembro matto io, se no. Allora, non sto parlando della disabilità. Tu dici che i comunisti in Emilia Romagna hanno reclutato, hanno un'organizzazione perfetta e, come dice il governatore della Lombardia Fontana, hanno portato a votare disabili. Benissimo, è un dato di fatto. Punto. Ma non è un dato di fatto cosa? Ma chi l'ha fatto? Ma che hai visto che cosa? Tu che cosa hai visto al seggio? Non ho capito. Ho visto persone che venivano regolarmente accompagnate con le loro proprio difficoltà fisiche. Allora buono, meno male. Ma guarda, Io sto dicendo, lei zoppica mentalmente, altri zoppicano con la gamba. Votate tutte e due. Lei che zoppica mentalmente e quello che zoppica con la gamba. Non è che se uno zoppica con la gamba è più influenzabile. Ciao. Ma digli qualcosa anche tu che detto, stai a Milano. Detto. Con quegli occhiali da sole alle 8 meno un quarto. Ciao Francesco. Ciao. Porca miseria. Oh. Allora, grande ritorno alla Zanzara. Giampiero Mughini, buonasera. No, ottimo, scusa, buonasera. Eccoci. Allora, caro Giampiero. Era quel cretino di poc'anzi. Era uno. Scusa, io mi arrabbio, Giampiero, alle volte, però non ne posso più. Scusa. Era uno che sosteneva. Mamma, sai che cosa ha detto oggi il presidente della Regione Lombardia? Sì, che vabbè. Sto dicendo. Sì, lo so, ma appunto, quando un dirigente politico ricorre a questi argomenti, vuol dire che ha la frutta. Cioè, ma tu dici che ha la frutta. L'idea che Bonaccini ha vinto perché 10 o 15 o 20 persone disabili sono state accompagnate al seggio come nel loro pieno diritto, se un dirigente dice queste porcate è veramente una frutta. Strano, perché io ho stima del dirigente di Fontana. No, ma infatti anch'io mi sono stupito, nel senso che lui forse voleva dire, caro Giampiero, voleva dire che la sinistra, lui dice, per difendere l'ultima bandiera, per difendere l'ultima roccaforte, 185.000 voti in più Bonaccini, ma che discorso è? No, ma certo. Poi è vero anche il contrario, qualcuno ha detto se Salvini prende il 42% in Emilia Romagna è un trionfo, ed è vero, cioè la cosa più vera è questa seconda, esatto, è sì. Che Salvini arriva secondo in Emilia Romagna ma con un gran risultato, e dai. Allora, disabili e centenari portati ai seggi per far vincere il PD, questo ha detto signor Fontana. Sì, buono Giuseppe, ho la mia età. Cioè, nel senso ragione, che queste le trovi delle porcate, cioè, è una porcata. Follia. Allora, però io ho chiamato Giampiero per una cosa, ha scritto una lettera qualche ora fa a Dagospia, perché è incazzato nero. La leggo. Potrebbe essere il caso di tanti tantissimi italiani esposti a una prepotenza. E di pochi giorni fa la notizia che è stata comminata una pesante multa alla società Eni, Gas e Luce per la loro abitudine di martellare i potenziali clienti con telefonate illimitate ogni ora del giorno, e meglio anche se a ora di pranzo o di cena, telefonate contro le quali nessuno di noi ha la benché minima possibilità di difesa. Vero. Succede adesso che io abbia troncato il mio precedente contratto con Eni, Gas e Luce e sia passata a un altro gestore. È successo anche a me, uguale. Quanto di più semplice. Finisce un rapporto, ne comincio un altro. Naturalmente ho già pagato fino all'ultima lira. Tutto questo nel migliore dei mondi possibile. Un corno. A partire dalla settimana successiva alla chiusura del mio rapporto, questi delinquenti mi martellano di telefonate giornalieri. Mi sì, sono messo a ridere perché vero. Mi sono immaginato la scena di Giampiero Pughini che viene chiamato da un signore di Eni, Gas e Luce. Io ho fatto anche una telefonata una volta qui alla radio. E oggi ne sono arrivate tre, in cui dei ragazzi che pronunciano un italiano così e così mi vorrebbero convincere a tornare a quell'azienda. È uguale, se sono anche a me. L'ultima pazzesco. Telefonata è arrivata 2 minuti fa, mentre avevo cominciato a scrivere questo pezzullo. Urlo, minaccia, bestemmio, niente da fare, sono sparsi in tutta Italia quei poveri ragazzi che per 2 lire fanno da sicari di quell'azienda. Sicari, mi spiace per loro, mi spiace di urlarli contro, ma che posso fare per difendermi da queste canaglie che non si danno pace dall'aver perso un ragguardevole pollo da spennare? Beh, caro Giampiero, posso immaginare la scena, posso la puoi immaginare facilmente, ma è una scena, ti ripeto Giuseppe, di una prepotenza inaudita. Io sto qui, non è eccetera, suona il telefono, corro e cominciano questi, sono Laura, sono Alberto, perché si presentano così, per conto della società di Eni, Gas e Luce, e io comincio a ululare, perché non so, in questi due mesi che ho rescisso il contratto saranno arrivate 20 sì, sì, telefonate, forse 25 a tutte le ore del giorno. Sì, cioè... hanno avuto una multa paurosa, perché evidentemente è nella loro pratica, ma allora non gli fa né caldo né freddo, perché evidentemente i polli da spennare danno un tale reddito che vale anche prendere una multa. Può capisci? Essere, può essere, può essere. Allora, io noi facciamo un appello qui, amici miei. Adesso lo facciamo per Giampiero, ma lo potremmo fare per tutti. Ma guarda anche a me, anch'io un mese allora, fa. Allora, ragazzi, ho detto anch'io, ragazzi uguale, miei, adesso probabilmente pagano anche la pubblicità in questa radio, ma noi siamo talmente liberi che ce ne fottiamo pure di questa cosa. Uno non è che può rompere i coglioni al prossimo quando ti ha disdetto un contratto, anche quando non te l'ha disdetto. È vero che ci saranno delle leggi che consentono che magari tu hai dato il tuo libero numero, mercato, chissà no? Vale per quale per ho capito, ma non potete, vale anche per ma non potete rompere il cazzo alla gente 3 volte al giorno semplicemente perché uno se n'è andato. Io lo capisco Giampiero, è una persona che sta a casa, sta lavorando, sta magari pensando, sta cagando, sta facendo l'amore, sta facendo altre cose, oppure sta semplicemente leggendo, ecco, e uno deve ricevere una telefonata. E come si fa poi a mollare? Come fai tu a mollare questi qua una volta che ti chiamano? Qual è la tua tecnica? La mia tecnica a questo punto è un urlo che si accompagna a una minaccia, a una bestemmia. Cosa fa? Affronto un discorso articolato dicendo guardi che io il giorno tal dei tali poi ho pagato tutto eccetera e così. Non è possibile, 3 volte in un giorno, 3 volte in un giorno. Io poi sto a casa, il mio posto di lavoro è a casa, quindi mi torturano nel cuore del mio lavoro. Ma scusa Giampiero, quando tu provi a spiegare a questi qua che ne so, io ho disdetto, non voglio più avere ma la cosa è molto semplice Giuseppe, ognuno di loro è un giocatore libero, nel senso che loro hanno degli elenchi sterminati di polli possibili e ciascuno di loro se li passa in rassegna. Infatti non è che mi chiami sempre lo stesso individuo, per carità, sono dei gruppi partigiani appostati sulle montagne di tutta Italia, capisci? E per poche lire torturano i cittadini. Cecchini, ma li descrivi come dei cecchini però questi qui quasi. Sì, sì, esattamente dei cecchini, perché esattamente una fucilata, una telefonata che ti arriva mentre stai facendo, eccetera, e ti arriva la fucilata e cominciano, sono Alberto e voglio contattarla a nome di Eni Gas e Luce. Allora ragazzi, facciamo un appello a questa azienda, perché sono sicuramente nostri inserzionisti. Ma però riguarda anche quelle società telefoniche. Ragazzi, fate in modo, perché altrimenti qui facciamo ogni giorno, mandiamo in onda, registriamo le telefonate. Però qualcuno, onda, è capitato anche a me, però voglio dire a Giampiero, siccome è capitato anche a me, anche per la telefonia, che sono passato da un operatore all'altro, nel libero mercato questi ti richiamano e ti rilanciano con una proposta più allettante. Ho capito, ma una telefonata è accettabile, una è accettabile. David, nel libero mercato un corno, perché non penserai davvero che ci sono offerte più vantaggiose, ci sono incastri diversi. Io pago delle bollette che non credo le pagasse Nerone quando era il padrone di Roma, capisci? Ma io infatti non è che ho cambiato gestore nella speranza di pagare, ma per carità, solo che siccome ho una casa grande, ho due contatori diversi, uno era di una società e uno di un'altra, e ho unificato. Giusto, e adesso normale. Mai più, per nessuna ragione al mondo, cambierò, morirò non comunista, come dice Libero, ma morirò con l'azienda CEA. Capisci? Ecco, dice Feltri che il comunismo tra l'altro è una malattia mentale, sostiene Feltri. Beh, oggi come oggi, in effetti, uno che si dica comunista, insomma, effettivamente io da un punto di vista. Io pure nella storia dell'uomo è stato molto di più. No, infatti io ho detto, appena ho sentito questa frase prima, Parenzo si è incazzato, io ho detto, se uno oggi si dichiara comunista è un pazzo. Cioè, penso proprio di sì. Mauro Vauro, che si dice comunista, io lo affiderei alle attenzioni di un neuropsichiatra. Ma no, io penso a un vecchio amico che è stato storico, anche mio Vauro, ma no, ma non Vauro, io penso a un mio vecchio amico che è stato un grande senatore del Partito Comunista Italiano, ma uno degli avvocati del Vaillant dell'epoca d'antan, David, ma io quello dico, sì, per carità, se oggi ti dici comunista era un'altra cosa, per carità. Senti, tu che ne pensi? Scusami, che ne pensi del signor Mario Giordano? Vedi mai fuori dal coro questa trasmissione? Io non sono mai. No, certo no. Onestamente, grazie a Dio, ho delle cose ogni volta molto migliori. Lui faccia pure il suo mestiere. Gli auguro tutto il bene. È un mestiere che non saprei definire. Lui lo faccia, per carità. Cioè, tu dici un propagandista, è uno che fa propaganda. Ma no, è un cabarettista di un genere particolare, non particolarmente elegante e raffinato. Ecco. Tu dici che è un cabarettista di quart'ordine, no. Io non ho di... Guarda, poi conosco Mario Giordano da tanti anni, perché mi devi fare delle cose triviali su di lui? Io adoro Mario Giordano. Volevo capire se questa svolta di questi ultimi anni, il fatto di ospitare, come dice Parenzo, sempre Salvini e la Meloni, eccetera, non l'abbia trasformato come sostiene. Ma non è solo lui, sulla Salvini e sulla Meloni ci campano la metà dei talk show, italiani. Talk show, ti voglio ricordare che sono gli spettacoli meno costosi della TV italiana, e dunque figurati, con Salvini e con Meloni per giunta fanno parecchia gente. Ma questo è lo spirito del tempo, non è solo Giordano ad utilizzare i due personaggi che abbiamo citato. No, la differenza è che Giordano li prende, gli dà del popcorn e li porta al cinema. Ognuno sceglie la sua poetica, sai? Giusto. Così come gli scrittori, Balzac scriveva in un modo, Pirandello in un altro, se è lecito il paragone. Senti, Salvini dice che rifarebbe tutto, pure la citofonata, e tra l'altro Sgarbi dice che è la cosa più bella che ha fatto in campagna elettorale, il signor Sgarbi. Sgarbi non ha tutti i torti, perché dal punto di vista del suo pubblico, cioè voi non potete pensare che Salvini agisca nell'intento di convincere Giuseppe, David e me. Non è assolutamente questo. Lui pensa di convincere, di persuadere, di sollecitare gli italiani che non leggono un giornale per nessuna ragione al mondo. L'Italia è uno degli ultimissimi posti per indice di lettura dei libri. Ha la percentuale quale ci sono solo sei paesi peggiori dei nostri quanto a lettura dei libri, e sono Cipro, Grecia, Malta, cioè, siamo Portogallo, non ricordo, cioè, stai cosa. Dicendo che siamo un paese del pubblico che lui si riva, ed effettivamente la citofonata è spettacolare per quel pubblico. Gesù, stai dicendo come che un paese è un paese di, no, ma io l'ho capito benissimo, è un paese di ignoranti, stai dicendo, è un paese di analfabeti, di analfabeti, benissimo. Ma questo non è che sia una grande invenzione. Ho capito, però ho capito, ho fatto. Però, senti, io ti voglio darti un consiglio prima di lasciarti, sì. Dato la tua passione, che non so se sia rimasta per il per porno, il non so, per il ah, porno, no, per il, no, calcio, per il porno, il calcio, un'altra cosa, per il porno. Ti consiglio questi due che abbiamo intervistato qualche giorno fa, che non sono nuovi, però è una mia scoperta recente, che sono Danica e Steve Mori. No, no, io ho avvistato una cosa loro, sono lontanissimi dal mio gusto. Ah, lontanissimi. Auguro a loro tutto il bene possibile. Non ti piacciono, non ti piacciono. Ti ripeto, li ho visti un attimo da qualche parte, proprio non so se dopo il tuo pezzo, ma no, penso prima ancora, ed è tutta una cosa che non, una cosa, diciamo, ah, non ti piace, ma hai visto le scene non le hai viste, puzza di case con divani e servizi, capisci? Che vuol dire puzza di case con divani e servizi? Cioè, non ti piacciono le case con divani e servizi, no? Con divani. Ah, sono due vani. Ah, ho capito, sì, divani, sì, ho capito. Cioè, no, c'è una cosa casereccia, dici? Cioè, una cosa casereccia. A te ti piace il porno professionale, quello? Beh, il porno professionale, quello dei grandi registi americani, eccetera, con delle grandi scenografie, con delle grandi preparazioni psicologiche, eccetera, con delle ragazze che Dio le ha fatte a dimostrare la sua onnipotenza. Dai. Cioè, ti piace questo tipo di roba? Non ti piace? Beh, sì. Senti, il ragazzino napoletano, lo vuoi sentire l'audio del ragazzino napoletano? Che ha fatto che cosa? Quello su che si è, faglielo sentire, si è staccato il simbolo della Juventus, sai quello che il simbolo della Juventus, cioè lo sai quando entrano in campo, faglielo le squadre, sentire, no? Se adesso come fa a commentarlo? No, no, forse non sai il fatto. Io, guarda, sono contento che i napoletani siano stati contenti questa volta, sono venuti al campo, che erano a 27 punti da noi, adesso sono a 24. No, ma il ragazzino napoletano, sì. Il ragazzino napoletano, uno di quelli che è andato allo stadio, sai, di quelli che vanno allo stadio, certo. E lì all'inizio della partita, no? Sì. Aveva la maglietta della Juventus e si è strappato praticamente lo scudetto della Juventus, il simbolo della Juventus. Dopo ha dichiarato questa cosa qua, senti, fuori dallo stadio. Sentiamo. Ho fatto un gesto che per il Napoli è una cosa eccezionale. Cioè, mi sono coperto lo scudetto di quella squadra, è merda. Dici, mi sono coperto lo scudetto di quella squadra. Che il Napoli, che è la città dove risiedeva Benedetto Croce, si vanti di questi exploit, è molto triste. Napoli è stata una grande capitale della cultura europea. Ma al padre di questo ragazzo, che vorresti dire al papà di questo ragazzo? Al papà di questo ragazzo, che mi spiace per lui, mi spiace per suo figlio, spero che migliorerà, se no suo figlio, per bene che vada, può andare a fare il parcheggiatore abusivo, per bene che gli va. Un abbraccio, ciao, ciao. Un abbraccio. La Zanzara. Tutta un coglionella, tutta un coglionella. Dimmi, Mario, dimmi. Allora ce l'ho con te, Crociani. Sì, parla bene, toglivi la voce, l'auricolare, il Bluetooth, i fili del cazzo, quello che è. Non posso farlo, non posso. Ma se non puoi fare, allora vai a fare in culo e non chiamare, scusa. Ma vai a fare in culo tu, ma non chiamare, imbecille! Se hai il telefono così, non chiamare! Non chiamare! Non chiamare! Se hai il telefono così, non chiamare, imbecille! Ma perché sempre questa trasmissione? Ma perché tutto viene trasformato in una rissa? Perché? Ma scusa, ma chiama col telefono così, bisogna a destra di cazzo. È una trasmissione incredibile, tutti che no, perché? Abbiamo un'altra telefonata in linea. Voglio vedere proprio chi c'è. State attenti con quello che dite. Interrompo di corsa le telefonate, eh? Pronto? Ho fatto un gesto che per il Napoli è una cosa eccezionale! Cioè, mi sono coperto lo scuretto di la squadra, è merda! Chi era quel cretino di poc'anzi? Comunque, grande forma, eh! sì. Bughinone era in grande forma. Ma vedi, però, non mi sono arrabbiato solo io. No, cioè, ma era in grande forma. Ma su che cosa dici? Su quel signore che ha chiamato e che diceva che i disabili che vanno a vedere. Forse non hai capito bene. Che quando ti arrabbi, la gente gode. Devi capire questo. Quando ti arrabbi, la gente gode. Tu li assecondi. Ma io lascio parlare. Lascio parlare poi qualunque cosa dica. Se tu ti incazzi, la gente gode. Uno vale uno, uno vale uno, tutto uguale. Ma io non voglio che la gente goda, non mi interessa la gente che goda. Mi arrabbio veramente perché mi fate impazzire. Tu e quelli che chiamano. Ti posso dire una cosa, Davide, ti posso dire una cosa. La gente, devi capire questa piccola differenza. Le persone che ascoltano questa emissione radiofonica vogliono, non vogliono da te. Ogni tanto vogliono una spruzzatina di riflessione, una spruzzatina, proprio un piccolo lancio, un frammento di ragionamento. Ma non voglio ragionare. Sì, lo vogliono, però godono soprattutto quando combatti, godono quando sei te stesso, godono quando vai all'assalto, godono quando sei vivo, quando sei vivo. Non quando vuoi fare il professorone. No, dai. Ma io non voglio fare nessuno, proviamo a ragionare. Ascolto la Zanzara perché ogni tanto voglio averlo duro al casello di Genova. Ma questo è un suo problema, questo qua. No, capito, ma se questo gli si indurisce il pisello, se ti sente, combattere, lasciami così perché mi fai star male. Mi fai star male se mi dici così. Dai, Andrea da Roma, dai, Andrea. Questa gente che chiama. Andrea, dimmi. Giuseppe, ciao. Allora, volevo intervenire riguardo dei call center. Io parlo da agente di commercio, di luce, gas e telefonia, quindi sono del settore. Mi bombardano tutti i cazzo dei giorni tra. Questa è una cosa vecchia, adesso io l'ho rimessa in pista perché Mughini si è incazzato, ma è una cosa adesso. No, veramente una cosa che a livello commerciale è tremenda, perché tu non puoi bombardare un cliente che magari era pure potenzialmente interessato. Cioè tu dici è controproducente, dici questa cosa. Questo però la valuterà. Cioè, per esempio il trading, gli avevo dato un attimo di interesse, sai, sai che me nazio, poi... Poi che? Certo, se uno è come te, Andrea, cioè, arrivederci. Cioè, se uno chiama col tuo telefono, arrivederci. Paolo da Bergamo, detto, Paolo, dimmi, Paolo. Ciao Beppe, ciao dimmi, David. Dimmi. Allora, volevo dire una cosa. Io godo quando David si incazza, è vero, però volevo dare quella spruzzatina di che dicevi prima, di approfondimento. Una cosa bellissima, soprattutto per David, che magari in alcune trasmissioni con qualche politico può avere anche raccolto qualcosa nelle pause pubblicitarie o meno, un'opinione. Allora, io sento dopo l'Emilia che la grande vittoria della sinistra la stanno facendo passare. Allora ragazzi, smaltita la mia amarezza ma non la mia amarezza per la sconfitta, per il fatto l'ho già spiegato, la gente ha capito male, ma chi se ne frega, è normale che capisca male. Ho detto, io volevo godere solo per una cosa, che certo passava per la sconfitta di Bonaccini, la vittoria della Borgonzoni, però questo non c'entra nulla. Volevo godere per la faccia di Santuzzo, basta, solo per questo, il resto non mi interessa. Un altro discorso, io volevo... Però smaltita questa roba qui, devo dire che poi uno va a leggere le cose e dice, ma che cazzo sei contento che questi hanno preso il 43% quando tu vincevi sempre con l'80%? Cioè hai perso 10 punti, PD ha perso 10 punti in Emilia Romagna rispetto alle elezioni precedenti, dai. Infatti non esistono più delle roccaforti, che significa? Certo, Paolo, dimmi. Ma proprio per quello quella vittoria ha un significato. Dimmi. La vittoria pensa all'Umbria, candidato contro candidato, giusto, Paolo? No, ma pensa all'Umbria. La vittoria è di un candidato, perché a livello di numerico la sinistra ha perso. Ho detto pensa all'Umbria, in cui ha vinto il centrodestra. Dimmi, Paolo. No, ma David, io volevo solo, ti spiego, faccio una premessa. Io sono uno che prima votava a destra, poi ha votato a sinistra. No, ma legittimissimo. Mi sono rotto i coglioni di votare. Allora, io dico, negli ultimi due anni si è votato in 12 regioni, 11 giusto, delle quali ha vinto. Ma l'abbiamo detto ieri. Ma sì, ma è vero, chiaro. Vero. No, però sto dicendo, il problema, tra virgolette, è che nelle prossime sei regioni nelle quali si voterà, in cinque già ad oggi c'è una differenza abissale. Vabbè, allora che vuoi dire? Scusa, che vuoi dire? Che vuoi dire? Sto dicendo che io sento che la sinistra ha stravinto, ma nei prossimi 6-7 mesi, bene che vada, possono vincere. Paolo, in Toscana e in Emilia. In Puglia, se vai. Toscana, Puglia. Allora, c'è una persona che conosciamo bene, che su questa storia del virus cinese vuole dire la sua. Perché tu ti molto, sei proprio innamorato, è molto tu hai avuto una storia con lei. Io, guarda, basta con questa cosa ridicola. Mi dispiace dai. Doverlo dire, ma se ne sai, io poi chi è? Nessuno mi toglie. Ma smettila con sta cazzata. Ma smetti. Ho un sospetto. Daniela, vuoi smentire queste minchiate di Parenzo? Tu hai avuto una storiella con questa signora. Ma scusa, ma che dici, Daniela? Daniela Martani, per favore. Smettiamo subito questa cosa. Non potrei mai stare con Cruciani, che è un carnivoro incallito. Chiaramente, ecco, meno male. Sono persone vegetariane o vegane. Quindi secondo me avete avuto un rapporto. Avete avuto un rapporto è al contrario, protetto, lo sai, Dani, no, ma in passato c'è, protetto sempre, ma gli piacciono le cose strane, io sono tradizionalista, quindi è proprio impossibile. Esatto, non c'è proprio la possibilità. Io ho questo dubbio, ma non voglio creare. Scusa Daniela, non è che tu sei tradizionalista, tu non fai proprio un cazzo, questo è il problema. Cioè no, tu non è che sei tradizionalista, vado solo con una persona, però ogni tanto ecco che ricomincio, sentite ascoltatori, ecco che ricomincio a flirtare. E quindi queste cose, le due cose, ecco, non che tubano, ecco, no, che tubano, ecco che tubano, no, ma eccoli, che tubano, eccoli. No, non diciamo cazzate. Allora, Daniela Martani è una che non è completamente disinteressata al sesso, diciamo la verità, cioè diciamola tutta. La leggo molto al sentimento. Ma tu non ti masturbi mai, Oh, mamma, questo mia. È il punto fondamentale. Ma che mi frega di masturbarmi? Ma scusa, ma lo vedi, una persona che dice che non si masturba mai, amici miei, cioè. Tu non conosci l'arte della masturbazione. E dunque, ma non me ne frega niente di questa cosa. Voglio parlare di un altro argomento. No, ma aspetta, però è interessante questa cosa qua. Poi adesso vado sulla Cina. No, non mi va di parlare di queste cose. Signora ha ragione. Io sono molto riservata da questo punto di vista. Ma abbiamo sempre parlato di queste cose qua. Perché ci vuole, sì, ma è vero, a me non interessa il sesso fino a se stesso. Punto e basta. Esistono persone che vivono la sessualità in questo modo. Ma come si fa? Ho capito. Come si fa a non masturbare? Io questo non capisco. Cioè, se verrà una volta che ti viene l'istinto di mettere quella mano, come ha fatto Rita Rusic, forse al Grande Fratello VIP, che ha messo quella mano sotto, ti verrà l'istinto di mettere quella mano là dentro e di cominciare a sfrugugliare o no? Io vi lascio. Ogni tanto da sola. Ti viene, però non è una cosa che mi lascia soddisfatta. Cioè, non completi nemmeno. No, ma perché comunque per me è tutto l'insieme, capito? Che mi dà piacere, non è il discorso per della. Cui da sola dici, da sola dici. Dai, e giochetti nemmeno, figuriamoci. Sex toys nemmeno. No, non ce l'ho. Comunque è incredibile, ragazzi, è come gli estremisti cattolici che dicono che la masturbazione è un peccato. Ora, lei non lo dice, lei non lo dice. Io non dico questo, ognuno è libero di fare quello che vuole, però ci sono persone, devi metterti in testa, Cruciani, che ci sono persone che vivono il sesso legato al sentimento e non è disgiunto dal sentimento, invece voi siete dei maiali che praticamente scopate la mattina alla sera, non ve ne frega niente, e poi quella persona potete anche non vederla mai più nella vostra vita, arrivederci e grazie. Ma scusa, così. Quindi Parenzo, ti tolgo questo dubbio, non potrà mai esserci niente. Vabbè, allora, però posso dire una cosa? A meno che un giorno non impazzisco e mi voglia fare una scopata, ma solo quello posso ottenere da Cruciani, quindi poi... Però scusami, ecco, non c'è notizia. C'è una cosa che voglio dire. Allora, Daniela, posso dirti una cosa? Che scopare con una persona e poi non vederla più è una cosa straordinaria. È bellissimo. Non sentirla per giorni, per mesi, forse addirittura non sentirla più. È stupendo, è meraviglioso. No, a me non piace questa cosa. Non mi piace perché per me il corpo è un dono che si fa all'altra persona. Ok. Ma mi sembri cosa? Mi sembri Don Fanzaga. Ma non è una questione di essere cattolica. Io non sono cattolica, non me ne frega un cazzo, sinceramente. Scusami. Però sembri quelli, sembri un prete, dare il corpo. Comunque un donare se stessi. E dunque, chi va a prostitute che cosa? È un miserabile, come dice Parenzo? Per me, certo. Non li stimo le persone che vanno a prostitute. Abbiamo scoperto anche che non solo, e quello lo sapevamo, eccetera, un rapporto un po' complicato con la sessualità. Seconda cosa, che anche chi va a prostitute non va bene. E terzo, che una sveltina non l'ha mai fatta. Una cosa pazzesca, dai, su. Ma cioè. Non che non l'ho mai fatta, ma magari l'ho anche fatta, poi però non ho trovato godimento e piacere da questa cosa. Ho detto basta, non mi interessa. Cioè, preferisco stare da sola piuttosto. Ma guarda, preferisco farmi la passeggiata passeggiata col cane piuttosto che farmi una sveltina, non mi interessa proprio, capito? Capisci Parenzo che non potrà mai esserci niente tra me e Cruciani? Cioè, io volevo parlare. Tu bene Cruciani? Volevo parlare. No, infatti, mi hai dato del pervertito, che sembra che mi hai dato quasi delle cose. Beh, del pervertito. Non è vero, non è una ma cosa. Non sono pervertito. Mi piacciono le varie declinazioni. Mi piacciono le gang bang, su, dai Giuseppe. No, mi piacciono, le ho praticate, ma non è quello il punto. Ma cosa vuol dire? Ma uno prova tanto nella vita, prova tante cose. Però io volevo parlare di Cina. Fermi tutti, parliamo della Cina, perché la Martana è incazzata e sostiene che praticamente i cinesi se la sono cercata, o no? Ma i cinesi sono una popolazione, allora io non sono razzista, diciamolo però, subito, però, perché poi la gente ti dice, allora sono la popolazione peggiore che esiste su questo pianeta, sono la popolazione cinese, che chiaramente parlo in generale, vai. Allora, sono uno dei paesi più inquinanti del mondo insieme agli Stati Uniti, non gliene frega niente dell'inquinamento, quindi dell'ambiente, allora, non gli interessa proprio, è tutto mirato agli interessi economici, bisogna se vai a Shanghai, io ci sono andata perché lavoravo in Alitalia, allora, lo ricordo, ogni volta che io mettevo piede sul suolo cinese mi faceva schifo, sentivo la puzza di inquinamento, di schifo, giravi per i negozi con tutti questi animali morti, le tartarughe, i serpenti, cioè ti fanno schifo i cinesi, ti fanno schifo, sì, per me, a me fanno schifo come popolazione. Cioè se scomparisse la Cina non te ne fregherebbe un cazzo? Ma se cambiano direzione, perché così non si può andare avanti. Allora fermi tutti che torniamo, aspetta che torniamo, fermi. La Zanzara. Eccoci. Per colpa di questa gente che pensa che si possono fare figli solo con l'incontro carnale di un uomo e una donna, hanno reso impossibile. Carnale l'hai detto tu. Mi faccia parlare! Carnale l'hai detto tu. E mi faccia parlare! Carnale l'hai detto tu. Allora, non interrompa. Carnale l'hai detto tu. Carnale l'hai detto tu. Pope. Voglio finire di parlare. C'è un po' di rabbia, però. Ma quale rabbia? Che cazzo di rabbia mi dice? Mamma mia, la Martani, ma li avete visti i piedi della Martani? Diventerei vegano, fruttariano, qualsiasi cosa pur di baciare o leccare quei piedi. Mamma mia. Bene, giorni scorsi sono arrivati molti messaggi. Molti messaggi sul confronto tra Daniela Martani e l'influencer Asia Gianese qui su questa radio, in cui la gente si è divisa. Ma tu chi ti faresti? La gente si è divisa. I maschi di questa, che ascoltano questa trasmissione, si potrà ogni tanto esprimere dei come giudizi estetici? Ogni no, ogni ma tanto, sembra che uno dire tanto, quella è figa, mi farei quella. Oggi sembra un reato. Oggi non si può dire un cazzo. Ma è inelegante, si può dire tutto, ma è una cosa agghiacciante. Diglielo. Comunque, quando sei a cena con lei, no? Volevo dire che tra i due, cioè tra Parenzo e Cruciani, il mio tipo sarebbe molto più Parenzo, perché esatto, lo vedo più posato, bravo, più attenzione, clamoroso Cibale. Attenzione. È una persona molto seria, Gio Cruciani no, assolutamente. Comunque, tornando al discorso dei cinesi, di queste cose, allora, di queste, sono io non un popolo sono orribile, no, i cinesi sono un popolo orribile. Allora, sono un popolo orribile per una serie di motivi. Allora, noi facciamo, la popolazione umana fa schifo in generale, non dire questa cosa, assolutamente sì, assolutamente. Questa vuoi l'estinzione, vuoi tu. Allora, la Cina ha veramente il record dello schifo Allora, intanto in Cina lo sai benissimo, Giuseppe, che ci sono c'è ancora, scusate, c'è ancora la pena di morte per quasi 50 ma lascia reati, perdere ma ste reati, cose, dai. Ma lascia, questo c'è ragione. Ma si mangiano tutti gli animali pazzesco, che vivono che i cani. Questa... Ma saranno affari loro, ma saranno. Beh, no, si è può pazzesco. Secondo te mangiare il pipistrello, si può secondo te mangiare la volpe, le scimmie. Ma saranno affari loro, ma ognuno mangia quello che vuole, no? No, perché poi questi problemi di influenza aviaria, è poi vero che ne so. Esatto, l'ebola, la SARS, la peste suina, sono tutti causati da questi allevamenti. Dunque, alla fine, se questo coronavirus se la sono quasi cercata, tu dici, non piangi, non sei dispiaciuto perché dici alla fine se la sono cercata. Assolutamente sì, se la sono cercata. Allora, intanto qua c'è ancora da stabilire se sono partiti da questi mercati dove non c'è assolutamente nessun tipo di controllo. Okay, posso dirti una cosa, Daniela? Su due cose hai ragione. Non c'è controllo, c'è un eccesso di promiscuità e soprattutto mangiare quegli animali lì, cioè un pipistrello, oggettivamente non è una cosa. Sì, però proprio... non ti credere, Parenzo, che mangiare invece. Ti ricordi la mucca pazza? Ti ricordi l'influenza suina? Però, scusa, però la mucca pazza era pazza perché gli davano da mangiare e mangivi animali. Ragazzi, non entriamo in queste cose. Allora l'influenza suina comunque sono causati da questi allevamenti, da questo ammasso di animali, li mettono tutti insieme. Comunque non ci fosse, non ci fosse, tu dici. Si ammalano, quindi poi si ammalano, ovviamente gli devono dare gli antibiotici, quindi quando vi mangiate la carne vi mangiate anche gli antibiotici, basta, ma gli animali sono storia. Comunque malati, e chiaramente poi ecco che esplodono questi virus, e poi che succede? Devono ammazzare milioni e miliardi di animali perché non si possono più utilizzare. Cioè, per tu stai dicendo per che i cinesi sono un popolo di assassini, diciamo la verità, cioè da tutti i punti. Sono uno dei popoli peggiori, non gliene frega niente, ma tu lo sai che praticamente l'acqua cinese è praticamente quasi tutta inquinata, il 70% dell'acqua del paese è contaminato, non si può, perché loro buttano di tutto, non hanno nessuna coscienza ambientalista, non gliene frega niente. Posso tutto dirti minato, un'ultima cosa? Posso dire anche una cosa? Secondo me bisognerebbe boicottare la Cina, punto e basta, perché o cambiano direzione, va bene, per me gli interessi economici con la Cina, tutti questi negozi cinesi, tutti questi ristoranti cinesi, hanno rotto le scatole. Cioè tu dici boicottare i ristoranti cinesi, innanzitutto i ristoranti cinesi boicottare proprio gli interessi, cioè non bisogna ma i ristoranti cinesi in Italia, ma perché poveretti? Ma tu li chiuderesti? I ristoranti cinesi li chiuderesti? Vendono prodotti, carne. No, io non voglio intrattenere con un popolo che non ha rispetto per i diritti civili degli esseri umani. Lo sai che cosa? Banana caramellata, dottore, gelato fritto. La cosa straordinaria. Lo sai cosa sarebbe? Sai cosa sarebbe da fare la cosa straordinaria? Sarebbe fare una serie di telefonate di Daniela Martani ai ristoranti cinesi. Sì, ma poveretti, quasi te ristoranti cinesi in cui dice scusi lei perché c'ha nel menù questo dottore questo mangia gelato flitto buono molto buono. Ma tu ti rendi conto che in Cina c'è la pena di morte per l'approvazione indebita, falsificazione, frode, gioco d'azzardo, bigamia, gestione di un bordello, cioè qua praticamente in Italia farebbero tabula rasa, ammazzerebbero tutti. Scusami Daniela, reati che prevedono la pena di morte, reati non gravi. Scusami Daniela, sì ho capito, però guarda che lì lavorano, fanno lavorare le persone senza nessuna tutela. Ma lo so, lo sappiamo, dai, ma veramente, ma ascolta, ma che popolazione è? Non c'ha rispetto di niente e di nessuno. Dici, non gliene frega niente. Allora, i cinesi mi fanno. Che intrattengono rapporti commerciali. Allora, vuoi dirla chiaramente? I cinesi mi fanno schifo, mi fanno orrore. Dillo chiaramente, così la finiamo, dai, su. Cioè, i cinesi mi fanno orrore, però mi fanno orrore tutti quei paesi che non hanno rispetto comunque degli altri, in generale, e degli animali e dell'ambiente, perché non ti credo che il Brasile non sia da meno, o gli Stati Uniti, che sono che vuole tre, Lilia, i Lilia, paesi più inquinanti del mondo. Che vuole paesi Lilia, più inquinanti aspetta un attimo, Lilia da Bologna, che vuole Lilia da Bologna, dimmi. Voglio dire che l'Emilia Romagna è campione di maialopoli, cioè anche noi allora facciamo schifo, perché abbiamo centinaia di migliaia di maiali e altri vittime innocenti negli allevamenti intensivi in condizioni orribili. Ancora questa storia. I cinesi facevano schifo noi italiani, però io ho telefonato per un'altra ragione, non capisco perché dire aspetta qualcosa... che c'hai il viva voce Lilia, c'hai il viva voce. Non ho il viva voce. L'auricolare no. Che c'hai? No, spegni la radio. C'hai un te appunto, chi è Maurizio? Tuo marito chi è? È il mio compagno. Tuo compagno, non capisco, tuo amante sarà, il tuo amante sarà, sicuramente è una non storia... capisco perché, certo, non capisco perché per indicare e dire qualcosa di spregiativo su degli uomini che provano desideri sessuali, tensione sessuale senza essere innamorati, che debbano tirare in ballo i maiali. No, aspetta, questa è incredibile. Questa è incredibile. Allora, Lilia, che è immagino vegana o comunque similtale, o sbaglio? Sono vegana, sono non sentita. Aspetta, zitti tutti. Allora, Lilia sta dicendo una cosa incredibile. Essendo vegana, è offesa dal fatto che per indicare, come Parenzo fa spesso, come tutti noi facciamo, una perversione, si comportano come maiali, magari sessualmente, noi utilizziamo la parola maiali, giusto Lilia? Sì, esatto. Ma che sei scema? Io no, sto ma dicendo per giusto. Dire maiale, tu, per ma dire... tu sei, com- ma sei no, completamente ma fuori ma di per dire che è un porco, cioè che è uno che si rotola nel fango. Ma tu sei maiale, vuol dire che è un porco, uno che si rotola nel fango, signora. Io no, perché io sono civile, non sono qua per no, fare ma Lilia, scusi, Lilia, mi scusi, ma questa Lilia è pazza, ma, delle persone. Ma questa è pazza però, totale questa qua, sta dicendo che per offendere degli esseri umani si debba usare epiteti, che le parole si debba definirli come degli animali, mi sembra un'operazione scorretta, insensata. Ma chi se ne frega di queste cose qua? Ma chi se ne frega? Gli animali. Ma che c'entra? Uno dice maiali per dire. Ma no, metafora, dai, Lilia, non esagerare. Scusami, sono dice una persona che è vegana pure io. Esatto. Scusa, non esagerare. È una metafora e non è dispregiativo nei confronti degli animali. È utilizzato. Quindi rende un po' l'idea, ma non c'entra niente. Maiali sono degli animali pulitissimi. Perché gli ascoltatori non capiscono niente. Ma che ne sai te? Qui noi amiamo la confusione, amiamo il casino. Ma che stai a dire? Allora, Lilia, io non ho capito una cosa. Ora, tu ti senti offesa o comunque pensi che gli animali, chi è che si offende? Un animale io non si può. Scorretto. Ma gli animali non si possono offendere. No, ma noi li penalizziamo. Già, ma chi penalizza? Come che cosa che termine useresti? Scusami, zozzoni. Allora sono degli zozzoni, va bene. Diciamo, ma perché ti sovrapponi a me? Lasciami parlare, scusa. Io rispetto voi quando parlate, voi rispettate me. Ma scusami Lilia, io voglio capire, a parte che si sente un rimbombo pazzesco, come se fossi in una caverna e non so dove vivi, non so con non chi so, vivi. Adesso esco in giardino, guarda. C'è freddo, esci, signora, attimo, non prenderla. Non si ammali, ecco, si però, sente signora. Meglio adesso, si sente meglio, stupendo. Cioè fa freddo? No, io non patisco molto il freddo. Non patisce il freddo. No, ma è si è vegana, messo un maglioncino, è vegana, no. Non patisce il freddo e si offende se noi chiamiamo maiali per non dire. Non mi offendo, sto dicendo che è un'operazione che penalizza gli animali in modo ma penalizza tutto, chi? Ma nessun animale si sente penalizzato, signora mia. Ma non c'entra, è chiaro, gli animali parlano la loro lingua, noi parliamo la nostra, quindi un maiale non può capire. Ma scusi, lei un una persona che è un po', dal punto di vista sessuale un porco, come lo chiama lei? Come lo chiamerebbe? Cioè un porco, io? Una persona un po' che gli piace, che gli piace un individuo. Cosa vogliamo dire? Per dire porco, cosa vogliamo dire? Vogliamo che dire è una persona che è disgustoso, no, che è porco, che è ripugnante, repellente, ma un maiale non è nessuna di queste cose qui. Una roba incredibile, ragazzi. Io comunque un maiale non è nessuna di queste cose, è un essere vivente. Ma chi con se ne frega? Anche un'intelligenza, perché può anche capire delle cose che diciamo. Ma certo, è intelligentissimo. Ho capito, scusa, però scusi Lilia, signora, quando io dico esatto. Che questi qua sono dei alcuni dei maiali, si chiamano tipo. Sono dei maiali. Ma scusami, Giuseppe, stavamo parlando di una cosa seria, cioè la questione Cina. Mo adesso che vuoi fare? Vuoi ridicolizzare i vegani? Cioè, se lei la pensa stai zitta un attimo. Dai, dai, Giuseppe. Abbiamo già parlato dai. Della Cina. Fermi tutti, fermi, vi devo lasciare tutti. Ah, fermi, via. Fermi. Italiani? No, che italiani? Ah, no, come edizione straordinaria, il primo cane atterrato su Marte. Ma no, basta fake news. Monge non racconta storie. Le nostre crocchette sono 100% made in Italy e la carne è sempre il primo ingrediente. Monge, il pet food che parla chiaro. Se sei un imprenditore o un libero professionista, Fatture in Cloud è il software che fa per te. Fatture in Cloud è molto più che fatture elettroniche e ti permette di gestire anche i preventivi, registrare gli acquisti, mandare i solleciti in automatico e molto altro, in qualunque situazione, anche dallo smartphone. E dando accesso al tuo commercialista, risparmi un mucchio di tempo. Registrati su fattureincloud.it. Ha un prezzo piccolo piccolo e in più è Team System. Provalo gratis e semplificati la vita. Buongiorno. Buongiorno. Mi hanno detto che questa Mini ha i fari B-LED come optional. Le hanno detto male. Ah, e l'Active Guard? Nemmeno. Il Cruise Control? No. Almeno i cerchi in lega. Quelli da 17? Sì. No. I cerchi in lega? L'ha appena chiesto. Niente un optional, perché tutto è di serie. Mini Countryman nuova Baker Street Edition 102 cavalli. Tua a 23.400 euro con ecobonus mini ove applicabile e 5.170 euro di vantaggi inclusi. Scoprila in tutte le concessionarie Mini e su mini.it. La Zanzara. Luciani, in relazione allo sfruttamento della prostituzione, devi sapere che in Svizzera ha un giro d'affari legale passato di 4 miliardi di franchi e anni or sono ho fatto uno studio per commercializzare i servizi di prostituzione svizzera presso clienti italiani, vendendo questo tipo di servizi con come i box vacanze che si comprano al supermercato. Orbene, non è possibile, perché se in Italia guadagnassi anche un euro, che sia un euro, dall'attività di prostituzione svolta all'estero dove è regolamentato con tutte le tutele del caso, sarebbe comunque sfruttamento della prostituzione e andrei in galera. È terribile. Io dall'altra sera penso solo al vecchietto di 85 anni che pratica la fellazio al transessuale. E lì c'è anche David, che guarda, legato sulla culla. Beh. Grande Max, grande Max. Ciao, ciao Rocco, ciao Rocco, ciao. Invita l'amichetto tuo lì davanti, si sceglie la donna, da te in radio, voglio vedere se hai coglioni. Si sceglie la donna, a me mi metti una vecchia di 90 anni senza denti con la dentiera e me la inculo e mi inculo pure lui, me lo inculo insieme alla vecchietta. Questo è uno dei top assoluti, da sbiancare. Allora ragazzi, c'è in giro una malattia molto pericolosa, che è quella del perbenismo, e quella della aspetta adesso, ma questo è un'oasi di libertà, però aspetta. Siamo puzzi, quando esco da due ore di trasmissione mi sento la puzza anch'io addosso di quello che mi aspetta, arriva. Aspetta un attimo, allora ripeto, tu non mi fai finire mai quello che voglio dire, mi prenderò uno spazio per fare degli speech, degli speech. Allora, c'è in giro una malattia molto pericolosa, che è il perbenismo, la follia di chi grida al sessismo, il moralismo. Tutto viene classificato come odio, come disprezzo nei confronti delle donne. Senti che cosa succede in un locale di Treviso. In un locale di Treviso, direi in maniera geniale, e i gestori che cosa hanno fatto? Sai gli orinatoi dove uno va al cesso nei bagni? Gli orinatoi li conosci, no? Ogni tanto vai a pisciare, oppure ti fanno schifo anche gli orinatoi? No, ti fanno schifo, cerchi di evitarli, però quando è possibile cerchi di evitarli. Cioè, a te non piace mischiarti negli orinatoi? No, non per le persone, perché non ti piace pisciare accanto a una persona, questa è la realtà. Cambi qualunque altra, generalmente non ti piace, sì, pisciare accanto, ti fa schifo accanto a una persona, sì, certo, ho il mio corpo, voglio gestirmi il mio, ma negli autogrill ma Feltri non gliela ha il suo cesso privato a libero, perché gli fottono i pezzi del water, e te la prendi con me che ti dico che io cerco, se posso, di non di andare in un gabinetto, chiudere la porta e starmene tranquillo quei 40 secondi di libertà. Stare accanto, ma è un camionista, no, in un autogrill, ma non ti piace. Anche accanto a te, no, il camionista, accanto a te, a Mario Giordano, a Nicola Porro, che è un amico ed è anche elegante ed è sempre pulito. Cioè, pisciare in un orinatoio accanto a me, come succederà domani sicuramente, a Modena, non ti piace. Vado nella mia stanza d'albergo, alzo possibilmente la tavoletta, ovviamente, e faccio quello allora, che devo fare. A Treviso? Poi mi lavo le mani. Poi tiro l'acqua e mi lavo le mani. Vabbè. Cose normali che tu fai passare per eccezionali e per bigotti. Cosa hanno fatto questi qua di questo locale di Treviso? Ecco. Hanno praticamente disegnato questi orinatoi a forma di bocca di donna. A forma di bocca, ovviamente. Ovviamente bagno maschile, cioè bocca di donna, con tanto di trucco, eccetera, eccetera. Subito la protesta del Partito Democratico. Ormai il Partito Democratico è il PD, partito dei bigotti. PDB è una roba incredibile. Ogni cosa che succede rompono il cazzo su queste cose qui. Non è che la Lega sia da meno, con le Madonne, con quest'altro, con le altre cose, però almeno sulla prostituzione si salvano. Orinatoio a forma di bocca di donna, locale di Treviso accusato di sessismo. Ragazzi, ma stiamo scherzando o no? Cioè, questi hanno fatto una roba, hanno messo la bocca della donna nell'orinatoio. Ma non è la bocca di una donna, è una bocca. Ma che vuol dire la bocca di una donna? Dai, ragazzi. Cioè, tra l'altro è entrata una cliente che ha criticato l'arredamento definendolo di cattivo gusto, offensivo e sessista. E subito uno del PD, non so come possa venire in mente una cosa se mettessero la tua faccia. Se mettessero la tua faccia, la mia faccia identificata, se mettessero una persona, la tua faccia, ma magari lo facessero, se allo stadio di stupendo, Napoli, se allo stadio del Napoli mettessero la tua faccia, tu non saresti contento, immagino. Sì, sarei contento. Posso dire, sarei contento. Perché tu hai il gusto dell'orido, perché se ne parli. No, tu sei molti nemici molto onore, come diceva sua eccellenza. Sua eccellenza. No, sua eccellenza. Sta sui coglioni sua eccellenza, che si è dato da solo il titolo, capito? Sua eccellenza. Si è dato da, si, tra le tante nefandezze, questa ovviamente è la... non è la peggiore, ovviamente. Però, no? Dici, il fatto che però si... tra le tante nefandezze, il quadro clinico viene completato dal fatto che lui si è autoattribuito sua eccellenza. Ma stai dicendo che Mussolini era uno psicopatico? Stai aggiungendo questa cosa, che Mussolini era uno psicopatico? Voglio dire, ma molto, molto normale non era. Tutti i venerdì non li aveva sicuramente. Uno che ha dichiarato. Vai la corte, vai, vai con il Carmine Burana, vai. Kubiak colpisce ancora, il consigliere ex leghista del comune di Trieste spara a zero. Senti questi audio, David, poi magari lo chiamiamo. Senti tutti questi audio da sentire. Proprio il primo peccato che grida vendetta agli occhi di Dio, cioè, quindi è l'aborto, l'omicidio volontario. Il secondo è il peccato contro natura, come quello dei sodomiti. Me ne dispiace, proprio è una cosa per noi, per qualsiasi cattolico, grave, che è sempre stata condannata. Io, quando mi sono schierato così politicamente, ho cominciato a muovermi, già sono stato massacrato, ho cominciato ad essere perseguitato dalla comunità LGBT. Vedi, vedi perché prima mi sono messo in Lega, la Lega era un partito omofobo. No, dovete sapere che per loro Salvini è uno dei cattivi per LGBT. Per voi Salvini è cattivo? Io, frequentando la chiesa, perché ero anche chirichetto molti anni fa, non ho mai sentito sfondare il culo e vaselina nell'uso, nel litigare tra gay. Io dico sempre, dico che quella persona lì, che purtroppo qui al mio fianco, è una persona che noi non abbiamo mai cagato, l'ho già detta questa qui. Scusa, sto parlando guarda, io. Guarda sto che parlando il io. Si parla solo sto di me. Parlando di io. Di sto parlando no, io. Bravissimo. Impara l'educazione. Aspetti, va bene, concluda Bini, prego. Okay. Aspetti, aspetta. Allora. Chiamala come vuoi. È una schifezza. Anche, comunque anche la pedofilia è sdoganata. Di nuovo. È un orientamento sessuale come tutti gli altri. Ma perché parli sempre di pedofilia? Tu? Perché la pedofilia è un orientamento sessuale come tutti gli altri. Ma guarda. Non l'ho fatto io. Interrogerei una psicologa. La pedofilia è un orientamento sessuale come gli altri, chiamiamolo, dai. Sì, pronto. Io ormai mi sono affezionato a te. Oh, di nuovo. Ma io mi sono affezionato. Sì, perché sono... facciamo audience. No, dai. Ma perché mi sono affezionato non sessualmente, cioè non sessualmente, per carità, non temere. Anche se uno che è tuo figlio, chi sono i tuoi figli? Chi sono? Sì, la mia quarta, sì. Ah, quattro figlie hai, per cui la famiglia tutta d'un pezzo, diciamo. Di quelle famiglie normali, di come erano una volta, mi piacerebbe avere anche il quinto. Anche il quinto figlio, cioè sei uno di quelli che vuole fare tanti figli per, come dire, in qualche modo per riprodurre la specie. Cosa che così hanno sempre fatto i cristiani, sai. Cosa che i gay non possono fare, diciamo. Effettivamente è di più difficile, però con l'utero in affitto con 150.000 euro possono comprare il business più grande della storia. Sai cos'è? Una mamma surrogata viene pagata solamente per fare da contenitore, da incubatrice, con un utero, con un ovulo e uno spermatozoo comunque da altri campioni. E dopo questo bimbo viene questo prodotto viene venduto a una coppia, chi lo vuole, anche eterosessuale, che condanno. Senti, però voglio capire una cosa. Perché pensi che la pedofilia sia un orientamento sessuale? Non è un orientamento sessuale, scusa. Mamma mia. È un dato di fatto. Invece puoi controllare fra gli orientamenti sessuali. No, è un crimine. È un dato di fatto, non è più malattia, no. No, ma è un crimine. Puoi controllare un attimino. No, però scusami. Anche l'omosessualità fino al 1990 era considerata malattia. Non lo dico io, è questa organizzazione mondiale. No, però scusami, tu stai dicendo che c'è adesso qualche legame. Non è più malattia l'omosessualità, e adesso non è più neanche la pedofilia. Ma che legame c'è tra le due cose, tra l'omosessualità e la pedofilia? Sono due orientamenti sessuali. Beh, no, ma scusami, no, ma come fai siamo a dire? No? Ma no, ma non no, è così, ma no, manco per ma niente. No, ma no, amico mio, non è da delirio, è da delirio. Ma come fai delirio? Ma come fai a dire che la pedofilia è semplicemente un crimine, un disturbo? Non può essere. Io condanno tutto, per me però questo lo dicono i medici. Non puoi, ma tu scusa, a proposito di disturbo, no, il soggetto attualmente attualmente in linea, anche lui ad esempio ha un disturbo. No, che c'entra, lascia perdere questo. Però voglio dire una cosa. Se tu metti sullo stesso ma se tu metti sullo stesso piano, sullo stesso piano. Ma io sono disturbato. No, ma no, ma lascia quello che dico è una follia, dico, se ci crede davvero è un disturbato. Perché sono eterosessuale, perché faccio ancora figli, per cosa? No, per scusami, Fabio, io voglio dire perché sono cristiano e la mia religione condanna condanna quello che non è. No, però scusami, io voglio tornare su una cosa. L'orientamento, se tu dici che la pedofilia e l'omosessualità sono due orientamenti sessuali, li metti sullo stesso piano. E c'è poco da fare, è così. Cioè, guarda, controlla quanti orientamenti ci sono. No, ma non è siamo arrivati a 54. Ma la pedofilia non è un orientamento sessuale. La donna dice maschio o femmina. Adesso siamo a 54. Guarda, controlla internet. Siamo a 54 orientamenti internet sessuali. Ma non, la pedofilia non è un orientamento sessuale, è un crimine. Punto eppure una viene messa come un orientamento sessuale. Ma tu questa cosa qui questa cosa qui lo vuoi dire semplicemente per un motivo? Perché secondo te, questa è la realtà dei fatti, secondo te la pedofilia e l'omosessualità hanno qualcosa in comune, cioè dire la perversione. No. Ma come no? Io non le ho detto, però c'era un vescovo non molto tempo fa che diceva che i problemi dei preti pedofili era dovuto sempre all'omosessualità. E tu ci credi? Questo diceva un vescovo molto importante italiano. Ma tu ci credi? Non l'ho detto io. No, ma ci credi? Non so, potrebbe essere, aveva detto un vescovo molto importante. Comunque, fatto sta che insomma, io sono molto religioso. Questo vescovo crederei sinceramente. Ma come dico, l'amore di due persone che si baciano, due uomini, non è amore, due uomini che si baciano. Non è un amore sano come quello di marito e moglie che porta ad avere figli. Non è un amore sano. Comunque. Allora te lo dico, fino al 1990 era considerata malattia mentale. E per te, va bene o no? L'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ma che c'entra? Le cose cambiano. E cos'è? Adesso è diventato un orgoglio. Prima era malattia, adesso in pochi anni in 30 non anni è un orgoglio. Discussione con l'orientamento sessuale. Il bacio che cos'è? Due uomini che si baciano, ti fa schifo? Ma mi può dare fastidio sinceramente in un luogo pubblico, mi può dare fastidio perché sinceramente io e mia moglie facciamo tanti figli, siamo innamorati, siamo insieme, da sempre, eppure non ci esibiamo in pubblico. E che c'entra? Ma se due uomini abbiamo la camera da dietro, non abbiamo da dimostrare nulla. Non vedo perché altre coppie devono farsi vedere. Scusa, se i tuoi bambini vedessero due uomini che si baciano, no? Tu che cosa diresti? Ormai non si vede programma televisivo dove non ci sono gay. Ma sinceramente, no. Quanti sono i gay? Una maggioranza? La maggioranza della popolazione italiana sono gay, quindi io dire? Non credo, eppure non io si vede programma parole. Televisivo dove non ci siano gay. Che la lobby del cervello continuo. Sono lo senza sai, parole, lo sai che parole. In Russia Putin ha fatto censurare il sistema ha fatto censurare le scene del film di Elton John. Non vogliono il lavaggio del cervello come che abbiamo noi sui nostri ragazzi. Dunque hanno fatto bene. Hanno fatto bene. Secondo me sì. Abbiamo fatto bene. Tanto esempio dai paesi che hanno sconfitto il comunismo. Luca, c'è la censura. La censura non devi voglio lavaggio del cervello sui nostri giovani. E chi lo fa? Ma chi lo fa sto lavaggio? Ma chi lo fa? Viene condannata anche da Papa Francesco. Ma chi lo fa sto lavaggio del cervello? Le lobby gay? Chi lo fa? Beh, è un dato di fatto che non vedi un programma televisivo dove non ci siano gay che si baciano. Quindi un lavaggio del cervello continuo che era impensabile fino a qualche anno fa. 30 anni fa. Vabbè. E lo sai perché? Perché? Forse qualcuno crede che non si nasce eterosessuali o omosessuali. Tu nasci e non sai nulla di del stesso. E quindi se hai un lavaggio del cervello il lavaggio del cervello fa diventare gay in una parte questo ha condannato. Ma quale lavaggio? Più volte il genere è stato molto bravo. Ma il lavaggio del cervello di chi? Operato da chi? Dalle lobby, dalle televisioni. Vabbè, ti saluto, ciao amico mio. Ciao Fabio. Vabbè, già chiudiamo, va bene. Ciao. Chi era quel cretino di poc'anzi? Adesso la corte ha catturato questo audio di Mughini e verrà utilizzato. Molto Patrizia da Modena, vai. Patrizia da Modena, vai. Va bene, chiudiamo da dimmi, Modena. Patrizia ci vediamo domani Modena. A Modena, dai, chiudi con questa qui. Ci vediamo domani a Modena. Arrivederci. Patrizia, grazie. Dimmi. Italiani, dimmi, Patrizia. Allora, io volevo intervenire riguardo alle elezioni in Emilia-Romagna. Dimmi. Secondo me, ok, i disabili hanno pienamente diritto di andare a votare. Allora, il problema, grazie, quello che dico io, è perché si ostinano ad andare ancora negli ospedali, in reparti tipo oncologia, tipo case di cura per anziani con demenza senile, a farli votare? Chiedono la scheda elettorale, ma non chi va? La carta d'identità. Ma chi va là? Quelli dei seggi, quelli che vanno PD? Per fare le votazioni. Quelli del PD? Certo, secondo me sì. Secondo me, mi date Mughini un attimo. Secondo lei sì, mi date Mughini? Mughini? Chi era quel cretino di poc'anzi? No, non ho capito. Mi date Mughini ancora, no, per favore? No. Non ho capito, cioè, sì, secondo te, non, a parte che una persona... Allora, è capitato a mio fratello, io ero presente. Non era in grado di intendere in quel momento. Allora, cosa è successo? Hanno chiesto carta d'identità, scheda elettorale, non l'hanno fatto votare dicendo che sarebbero passati dopo. Vabbè, allora... e non sono più passati, come a mio fratello è successo a tanta altra gente. Cioè tu dici che sono andati apposta a far votare gente che era incapace di intendere e di volere? Esatto, se non tu, sì, non insomma, denunzia questa cosa, che ti devo dire? Roberto da Milano, diffamazione, Roberto, dimmi, una diffamazione gratis. Roberto, così. Dimmi. Allora, io ho fondato una pagina Facebook, un gruppo, come si chiama? I Totani. Contro le sardine, esattamente. Cosa vuoi? Io voglio chiederti a te di diventare nostro testimonial. Io sono il leader di qualsiasi movimento si opponga alle sardine. Il leader naturale. Ma non ci sono. Fermi tutti, italiani! Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Chi era quel cretino di poc'anzi?